Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati. Domenica 20 novembre, sono le 14:35 minuti e 42 secondi. Un po' di raffreddore che mi sto portando dietro da una settimana, ma cercherò di utilizzare una voce meno nasale possibile. Oggi, come sempre, cominciamo ricordando chi è nato, chi ci ha salutato in questa giornata. Ed ecco che il 20 novembre del 1972 ci salutava un grandissimo drammaturgo, giornalista, sceneggiatore, ma fra i più grandi, Ennio Flaiano, al quale è stato anche dedicato un premio veramente importante, visto che questa radio, Radio 24, la trasmissione Voice Anatomy, se lo sono aggiudicati proprio lo scorso anno, grazie all'opera autoriale di Alessia Navarro e Mauro Meconi. A lui vogliamo cominciare, senza dire chi è la voce che ve li racconterà, con alcuni degli aforismi straordinari e geniali del grande Ennio Flaiano. Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore. L'unico modo di trattare una donna alla pari è desiderarla come un uomo. Il peggio che può capitare a un genio è di essere incompreso. Anzi, di essere compreso. Compreso. Sì, è quello l'aforisma. Un libro sogna. E il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. Vero. Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Afflitto da un complesso di parità, non si sente inferiore a nessuno. Bello. In amore gli scritti volano, le parole restano. L'italiano è una lingua parlata dai doppiatori. E questo credo che sia perfetto. Eh sì, e poi è scritto 30 anni prima, per cui no, bellissimo, bellissimo. Ce ne sono tanti. Oggi, come l'altra settimana, l'abbiamo dedicata come fil rouge al grandissimo cantante scomparso, incredibile. Oggi racconteremo alcuni aforismi fra i migliori di Ennio Flaiano. Però ce n'è un meraviglioso, posso? Sì, certo, leggi. Perché questo è proprio dell'epoca. Se i popoli si conoscessero meglio, si odierebbero di più. Sì, in anticipo, veramente sui tempi. No, quella è straordinaria. Beh, a questo punto bisogna dire la voce che vi sta accompagnando, non la mia, ovviamente, quella del nostro attore a tutto tondo, doppiatore a tutto tondo. Abbastanza. Sì, giovane ancora a tutto tondo. Sì, Francesco Venditti. Buongiorno, ciao Francesco. Buonasera. Buongiorno. Grazie. È vero, dopo grazie mezzogiorno. Grazie di essere qua. No, grazie a te di essere qua, caro mio amico Venditti. Ovviamente il tuo cognome ti racconta un attimo prima, non so se sia... Un attimo, forse diciamo è stato abbastanza. Lo so, ti caratterizzano un poco, purtroppo. No, purtroppo no. Ma poi non è che solo il cognome, è anche tutto quello che c'è intorno. Quello che c'è intorno, esatto, che non è soltanto... Non ce n'ho solo uno, poi no, Venditti, c'hai anche Izzo e Venditti, Tognazzi, sei circondato. Non è facile, questa è una domanda che uno fa sempre, non volevo neanche farti, ma in effetti è tutto in salita all'inizio, soprattutto non è in discesa. Guarda, più che in salita è tutto da regalare agli altri, cioè in realtà prima di te arrivano tutti quelli che hai intorno, che può essere tuo padre, tua madre, il tuo secondo padre come Ricky, come mio nonno, come Renato, Renato Izzo, e quindi arrivano prima tutti gli altri. E poi forse a quella persona a cui tu stai, sì, stai interagendo con quella persona. Poi dopo forse arrivi tu. No, dopo sei arrivato, io te lo posso dire perché sono stato testimone della tua vita. Da quando avevi 10 anni, e il tuo percorso non è stato facile, è stato tortuoso. È stato bellissimo. Ma però, è stato straordinario, perché tu sei adesso un ragazzo, uomo, padre, sì, devo dire con grande... 3 figli. Sì, ecco, 3 siamo arrivati. Mi dispiace per loro che quando saranno grandi l'IVA sarà al 35, però insomma... Ecco, l'unico mio problema per loro è questo. Poi sì, il resto, le guerre ormai ce l'abbiamo avuto tutti. Però lì va al 35 quando loro avranno 20 anni forse. Quanti anni hanno adesso tutti e tre? Una 19, uno 16 19, e uno un anno e mezzo. Già lei? Mia figlia Alice ha 19 anni. Sì. Fidanzata? Fidanzata, sì. Tu sei giovane, come la prendi questa storia? Non c'entra niente con Voice Anatomy. Cioè c'entra perché comunque la voce del tuo fidanzato. Ho smesso di essere geloso nella mia vita, anche in generale, anche nella mia vita privata, nel momento in cui mia figlia si è fidanzata. Da lì ho detto vabbè, tanto è inutile. Che però non essere... deve essere felice lei. Però poi non è vero. No, non è vero, all'inizio non è vero. Però per esempio mia figlia ha avuto una storia stranissima. È stata 4 anni con il nipote di Gabriella Ferri. No vabbè. Quindi così. Quindi c'è, anche lì ho detto madonna, poveracci pure, sì. Questi hanno nonni da tutte le parti, genitori da tutte le parti. La romanità vera. La romanità vera. Poi purtroppo è finita. Però insomma hanno fatto un percorso dai 14 ai 18. Cugino di De Gregori, se non adesso, sbaglio. Adesso al di fuori. Cocciante da... non c'ha parenti. Cocciante no. Quella generazione lì, insomma. Sì, Alan Sorrenti non credo ci abbia figli di quell'età. Peppino Di Capri, non lo so. Non lo so. Forse è grande, però è grande. No, adesso pensa è se si presenta fuori. Con Peppino Di Capri. Ma a casa. Tu... Vabbè, dai. No, vabbè. Senti, tu sei un grande doppiatore adesso, anche un bravissimo attore, ovviamente faremo un percorso della tua vita a 360 gradi, ma come doppiatore sei uscito alla grande. Come è iniziato questo mestiere, quello del doppiaggio, come l'hai cominciato? Allora, è stato un inizio devastante, perché in realtà io a 7 anni non lo volevo fare. Certo. Poi mio nonno, Renato, Izzo, Rossella, mia zia, sono stati i miei due maestri. Ho dei ricordi sul gruppo 30, che era questa grande società che aveva creato mio nonno, da dove poi sono usciti tutti. Voi pensate, insomma, ne abbiamo parlato, che Renato Izzo è forse stato uno dei più grandi direttori, adattatori di doppiaggio, doppiato e diretto, lo dicono gli i altri. Film più importanti del mondo. Detto questo, per me era papi, perché poi sono cresciuto a casa sua con lui e con mia nonna Mami. Io quello che mi ricordo è che mi ricordo i vari doppiatori di turno che mi venivano a prendere a scuola, mi portavano i turni dai 7 ai 10 anni. A 10 anni ho sbroccato. Sì, eh? Non ce la facevo più, andavo malissimo a scuola. La colpa gli era il doppiaggio, tu dici? No. Già ero, come dire, già in più quando a scuola sapevano che facevo doppiaggio, non è che erano proprio felicissimi al pio nono. E a quel punto ho detto: io ho bisogno di andare a giocare con i miei bambini. Poi ritorno. Esatto. E poi sono tornato. Hai fatto poi ho fatto la mia carriera d'attore, ho fatto le mie cose in teatro. No, però poi in realtà la vera casa, forse la mia vera casa professionale, anche umana, è nel doppiaggio, è nelle sale di doppiaggio, è anche nell'umanità che poi c'è dentro al doppiaggio. No, sei cresciuto tantissimo. Noi cominciamo invece con una cosa più piccola, poi arriveremo a quelle più grandi. C'è un Adam Bash in Buffy. Madonna. Te lo ricordi? Sì. Quanto tempo fa? No, ma c'è ancora. Cioè, credo, quello è un ritorno. Esatto. In realtà io credo una delle prime cose era Oliver and Company. Ah, della Disney. Della Disney, dove facevo Oliver. Facevo proprio Oliver. E mi ricordo che è stata una delle più grandi. C'erano i fax all'epoca. E mi ricordo questo lunghissimo fax della Walt Disney, dove diceva che io avevo vinto il provino. Bello. Poi Disney resterà per sempre. Sì, per cui... era stato bellissimo. Di che anno sei, Fra? Io sono del 76. Agosto 76, 40. Vergine ascendente Vergine. Pure mi rompo le palle da solo. Davvero, io guardo allo specchio e mi rompo. Esatto. Vergine ascendente Vergine. Come uno dei tuoi autori. Ah sì, Mauro Megoni, con cui hai collaborato. Con quale ho lavorato? Non ho collaborato, ho condiviso dei grandi momenti. Sì, assolutamente sì. Ma dopo racconteremo anche questo. Intanto utilizzo il momento per ringraziare dall'altra parte del vetro il grande Alessandro, sempre presente, il nostro il grande in tutti i sensi. Non c'è la televisione, ma lui si è mangiato l'altro fonico che c'era prima. Rachele gli ha fatto compagnia, alla nostra capo redattrice. Ho già detto di Mauro Meconi e Alessia Navarro e Milano in tutta la sua organizzazione, la messa in onda e quant'altro. Allora, ci salutiamo questo blocco, ma ricordate che Voice Anatomy è appena cominciata, con un momento di Adam Bash in Buffy con la voce Madonna. Di Francesco Venditti, e noi ci sentiamo subito dopo. Siamo un gruppo guidato, il gruppo turistico del raggio congelatore. Forse ci siamo persi. Ma il museo ha chiuso 5 ore fa. Davvero? Non ce ne eravamo accorti, ma grazie al nostro raggio congelatore togliamo subito il disturbo. Sì. Siamo affascinati dalla conoscenza. Musei, biblioteche, parchi di divertimento. Niente di noioso, però. Ho reso l'idea. Ci vediamo. Questo aggeggio è fantastico! Ha funzionato alla perfezione. Sì, beh, non proprio. Ha dei difetti, è solo un prototipo. Presto avremo un... Sentite, è tutto molto bello e interessante, ma nel frattempo, come dire... Ai! Comportati da uomo. Scegli Pantera col TH. Scegli l'ERP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati, come promesso immediatamente, 14:46, primi e 20 secondi, Voice Anatomy al mio fianco, alla mia sinistra, il bravissimo Francesco Ciao. Benditti, sempre qui presente. Abbiamo detto che questa puntata la dedichiamo al grande Ennio Flaiano, me ne leggo un paio anch'io di aforismi, e vissero sempre... Sempre, in cinese. Attenzione. A me non me la metti la musica sottofondo, Alessandro. Per favore, sei, perché gli ospiti, sì. Ah, così, quella di prima, della dolce vita. Perché comunque... No, falla così, dai. No, ma così è. Dai, falla così. E vissero sempre infelici. No, e come ha cambiato, vedi com'è di carattere. Perché lui è l'autore anche di tutti i film di Fellini, no? E allora era intonata in questo, no? E vissero sempre infelici e scontenti, così per non ingannare il suo bambino, termina le favole. Poche idee, ma confuse. Questo è Ennio Flaiano, poi è diventato un luogo comune. I capolavori oggi hanno i minuti contati. Fra 30 anni l'Italia sarà non come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione. Certo, certissimo, anzi probabile. Ah, grande titolo di un film poi ecco. È stato. Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo per me è il senso dello scrivere. Chi mi ama mi preceda. Meraviglioso. L'oppio è ormai la religione dei popoli. Anche questo è diventato nell'uso comune, ma torniamo a parlare di Francesco Benditti. Avevo detto che sì, doppiatore, cominciato ovviamente intonato alla famiglia, ma soprattutto attore. Attore. Sì, abbastanza. Sì, mai cantante. Mai, ecco. Mai cantante. Mai. Mai. Beh. È una cosa incredibile. Grazie Roma. Beh, va benissimo. D'accordo. Meno male che mio padre è in aereo. Alessandro. Vabbè, queste sono. Va bene. Tu sai perfettamente. Poi a lui che è della Lazio, per favore. Siamo. Vabbè, però sono ospitale veramente al massimo. Sì, sì, sono veramente ospitale. Grazie Alessandro. È una canzone Grazie bella. Ale. Una canzone è veramente bella. Cantata da un grandissimo però cantautore. Però levagliela. No, lascia, per carità. Stanno giocando ancora, no, alle 3 comincia, no. Qui fra 12 minuti cominceremo a stare distratti. Mai cantante, però ti posso raccontare un aneddoto. Mia madre cercava di farmi, ha cercato di mandarmi in tutti i maestri, sia di canto che di pianoforte. E un giorno io rovino completamente il pianoforte di questo maestro perché gli scrivo tutte le note sui tasti no. Con un indelebile. Da quel giorno il maestro ha detto: guardi signora Venditti, suo figlio non lo deve fare. Non lo deve fare. Ma non hai mai cantato? Non c'è neanche mai provato a canticchiare? Ho fatto una commedia musicale, ma insomma con vabbè. Non risultati eclatanti. Non se ne è parlato più di tanto. Lascerei, ho lasciato stare. Forse mio figlio canterà. Sì, già canta, quindi insomma diciamo che qualcuno salta una generazione. Ha saltato magari una generazione, da questo punto di vista ha saltato una generazione. Però rimane il lavoro con le parole, certo, non con il suo cuore che ha, però ecco. Ma sicuramente tu sei scappato un attimo all'inizio da quelle realtà. Sei stato circondato da quella del doppiaggio e il cinema, ma sei fuggito magari in quel momento dal mondo paterno della musica. Forse perché la musica era la cosa che portava mi portava via mio padre. Esatto. Quindi inevitabilmente è successo questo dentro di me. Quindi la musica, io ho conosciuto mio padre attraverso le sue canzoni. Certo. Poi certe volte gli dicevo: ma sei lo stesso che ha scritto Campo dei Fiori, no, perché di scuola. Poi umanamente siamo tutti diversi. Certo. E lui mi diceva: ahimè sì. Oddio, però ecco, poi alla fine io credo di aver conosciuto mio padre attraverso quello. oltretutto, pensa, io andavo ai concerti di mio padre in mezzo alla gente, perché volevo sentirmi parte come gli altri, gente. Parte della gente. E poi certo i biglietti erano gratis. Sì, ecco noi. Però magari. Poi andavo in mezzo alla gente. Però è bello, bello anche questo. Poi adesso lo apprezzi molto di più. Adesso papà sta a New York, mi ha detto che sta sul treno, sull'aereo, sul treno. È sull'aereo, sul treno per New York. Era pericoloso. Era una bella, magari in futuro, però adesso sì, adesso è sull'aereo per New York. E com'è? Non si può sapere, lo chiederemo a lui. No, no, lascia stare. No, no, forse no, si saprà. L'ho incontrato, ma ha giurato che veniva. E sono contento, se assolutamente, anzi, no. Sì, anche quello... insieme. Sì. Allora, dicevamo che non sei cantante, e questo l'abbiamo consolidato. No, non so cantante, non so proprio cantare. No, sei diseducato. Diseducato. No, non sì. sei, dai. Non è perché se non esatto, è possibile. Esatto. Tu sei intonato come attore, non puoi essere stonato come cantante. No, vabbè. Insomma, non sai utilizzare la voce nel canto. Non so utilizzare la voce nel canto. Lascia stare. Però hai partecipato tantissimi film. Io mi ricordo Vite strozzate, Compagni di branco, Romanzo criminale, dove sì. eri il bufalo. Il bufalo. Il film, quello il film. Di Michele Placido. Sì. Ti è dispiaciuto poi non... continuare nella, nella serie, magari? No, sarebbe stato uno sbaglio, secondo ti me. Hanno cambiato, hanno cambiato tutti. E hanno preso, tu sai, hanno che preso Mauro Meconi. Sì, però esatto. Io con Mauro ho condiviso un grandissimo, un piccolo grande film. Mauro, vieni di qua, visto che parla di te anche. Si chiama Fate come noi, ed era un film nato, pensa, come un documentario, un cortometraggio. Poi a un certo punto l'autore e il regista, che è Francesco Apolloni, Sì. Si inventa questa cosa che porta questo cortometraggio a questo produttore teatrale, che all'epoca era Massimo Chiesa. Uh-huh. Gli piace, si innamora dell'idea e chiede una seconda parte del film, in pratica. Infatti il film sono due momenti, il 15 agosto in una Roma del 15 agosto e un 24 dicembre di una Roma dentro al 24 dicembre. E la cosa bella di questo film, soprattutto nella seconda parte, nella prima siamo solo io e lui, che siamo due coattoni romani, dove ci non diciamo l'avrei mai gioco. Detto una cosa Hai del visto? Genere Francesco e Mauro, infatti, dai. È stato molto difficile una sì, cosa, ma una soprattutto per unica. Mauro ma Mauro per come... tutti, ma un po' per tutti, sì, perché levarvi quell'inflessione cockney molto inglese non è facile. Hai fatto un lavoro su voi però stessi, però invece vero? Nella seconda parte c'è una grandissima Pupella Maggio, mai. Che è stata la sua ultima interpretazione. Che anno era? Che anno era? Era il 2000. 2000, 16 anni fa. Sì, sembrano meno. Eravamo due pischelli. Sì, vabbè, sì. C'è dei 40 anni. Infatti, ma... Francesco adesso è entrato. Sento malissimo questa cuffia. Eravamo due pischelli. Francesco adesso niente. È entrato in radio, mi ha guardato, mi ha salutato. Salve, buongiorno. Non mi aveva nemmeno non l'avevo neanche riconosciuto. Beh, ma la vita gli è passata sopra, Mauro. Beh, sì, sì. È tipo John Travolta da un camion. Ho preso l'autobus in mezzo alla strada, non sullo scalino. Ma cacca, quando sono nate due gemelle, Mauro l'abbiamo perduto. Da quel punto beh, vabbè, guarda, la vita grande in bocca al lupo. La ciancicata. Io ne ho tre, uno dopo l'altro, e già. Per cui questo film, che poi è uscito, ma anche un buon film, che dopo c'è stato anche La verità, vi prego. Sull'amore. Aspetta. Dopo dirlo, siamo sdoganati. Io La verità, vi prego, sull'amore, l'avevo fatto 3 anni a teatro. Ah. Poi il film non l'ho fatto. Come non l'hai fatto? No, perché lui ha fatto quello che c'è facevo da dire io. Una cosa. No, c'è, hai capito? C'è da dire una cosa. Allora, che ho raccontato. Allora non è che non ti ha riconosciuto. Ho raccontato ad Alessia, che mi è testimone, ieri o l'altro ieri, di quanto fosse un bravo ragazzo Francesco. Io ho raccontato proprio questa aneddoto. Perché hai previsto questo incontro di oggi? No, sapevo che venisse in radio. Esatto. No? Allora gli ho raccontato proprio questo. Gli ho detto queste testuali parole, che abbiamo fatto insieme un film che si chiama Fate come noi, in cui il ruolo era il Pechino, che era lo stesso interpretato da Francesco in un'altra commedia. All'epoca era La verità, vi prego, sull'amore, che faceva un abbrancaccio, grandissimo successo, sempre pieno. Sì, sì, sì. E gli ho raccontato proprio questo aneddoto per dire: pensa tu, Apolloni, che nel frattempo ha visto crescere Francesco, che forse era diventato un po' troppo grande per età, l'ha sostituito con me. E io all'epoca feci una telefonata a Francesco, dove mi sentivo pure un po' a disagio. Invece lui, straordinario, mi ha detto: Mauro, ma che dici? Ma meglio che lo fai. Ma te sei fantastico, sei stupendo. Ma che bella cosa. Io non avrei reagito così. L'unica cosa, io mi sarei incazzato. Posso raccontare tantissimo. Io non mi scorderò mai nella mia vita come Apolloni mi ha detto questa cosa: mi porta a pranzo fuori. Ah, e io troppo. Ho detto: vabbè, questo no, ora so, mi vuole offrire il ruolo un pochino certo. più grande. No, invece proprio mi fa secco al baretto di Villa Celimontana. burro e proprio veramente e con burro, zucchero, Nutella, un po' di latte freddo, una cosa. E poi dopo mi ha detto che lo faceva lui e io ero solamente no, ma veramente guarda, io l'ho raccontato proprio perché sono rimasto molto stupito da questa cosa. Io non avrei reagito così, io mi sarei proprio arrabbiato, Mauro, perché insomma Mauro, è pure giusto, scusami, uno fa uno spettacolo a teatro, poi diventa un film. Sta entrando Alessia in me. Scusami Mauro, secondo me ti sei sbagliato. Sì, tu mi hai elencato tutti le doti di Francesco, quanto sì. è stato carino, quanto è stato comprensivo. Però? Secondo me era incazzato nero, sì, e ti sei completamente però sbagliato. Però è stato un grande signore. No, no, no, sì, no, grandissimo. No, no, no, non è vero, perché no. uno in, la, la, io penso che l'attore, come il doppiatore, ma soprattutto l'attore, deve anche capire quello che può fare e che non può fare. Io ultimamente ho detto di no a un film, mi ha roduto molto, però ho detto io questo non lo devo fare, perché mi facevano fare un altro ladro, un altro coso, ho detto no, grazie, voglio fare un prete. Così. Dico l'ultima cosa fatemi e poi, fare e poi vi saluto. No, infatti volevo solo dire questo. Anche per te, che ringrazio veramente da tanto Francesco Venditti, perché fondamentalmente era la mia seconda esperienza, la terza forse. Comunque lì avevamo un peso specifico. È stata una delle cose più divertenti elevato. Che abbia mai fatto. E lui mi è stato vicino come fratello maggiore, quindi grazie. E che dire, la stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, sono le 15 quasi in punto più 30 secondi. Cominciamo anche questo blocco sempre con Francesco Venditti. Eccomi. Raccontando un po' di aforismi del grande Ennio Flaiano. Prego. Quando la vanità si placa, l'uomo è pronto a morire e comincia a pensarci. Ecco. Ci sono molti modi di arrivare, il migliore è di non partire. Sei stato condannato alla pena di vivere. La domanda di grazia respinta. Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta. Il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma con meno letteratura. La pubblicità fa più danni della pornografia perché unisce l'inutile al dilettevole. L'avarizia è la forma più sensuale di castità. E là là. Attenzione. Tanti messaggi cominciano ad arrivare che ti salutano, ti ringraziano. Grazie a voi. E gratificano ovviamente la tua esperienza come doppiatore soprattutto. Ce n'è uno. Ciao Pino, che brivido ascoltare la voce di Deadpool su Radio 24. Un'interpretazione molto fuori i canoni del cinema. Assolutamente fuori, meraviglioso. Sì. Stupendo. Un altro complimenti a Francesco Venditti. Per aver doppiato qualcuno il mercenario, no, no, ancora no. Io li leggo anche sì, se Mauro Mercuri dice non leggere quelli cattivi. No, no, io no, invece li voglio leggere, leggerli. Sempre li leggo. Ma certo, perché uno si migliora anche. Se sono cattivi con grande critica, sì. Se sono lascivi, tanto ma per no, offendere. Guarda, beh, io poi sono. Io sono Fede Venditti da quando sono nato. Esatto, quindi sai quante me ne hanno detto. Oh, Io ho preso 37 due figure, sì. Che ho preso 60. No, mio figlio giocava con la Lazio e il professore che era da Roma ha fatto io so da Roma, che me frega giochi a Lazio, cioè, sì, solo, ma solo vabbè, qui però sì, eh. Ma è così, solo ma qui però è bello anche essere così. Sì, uno ha detto io preferisco Brignano a tuo padre durante l'interrogazione. Beh, ma che c'entra, che c'entra, capito, succede anche questo. Eccetera, complimenti. No, poi da non tralasciare, mi dice Giuseppe, anche ci sono due tipi di fascisti, fascisti e antifascisti, cioè questo è un altro aforisma di Flaiano. O è politically incorrect, no, ma sai, sono aforismi, no, li leggiamo poi puoi dire tutto per, ma dai, ma sono, siamo per radio e sono aforismi dettati dalla letteratura, non stiamo parlando di destra sinistra, non ce ne frega niente in questo momento. Carissimo, però voglio non tralasciare alcuni contributi che i nostri autori, soprattutto Mauro, che si diletta con gli scarichi dei pezzi dei nostri attori doppiatori, scarichi ovviamente parlo letterari del doppiaggio, non idraulico come dice Alessandro, E ascoltiamoci, tu hai fatto anche Giovanni Ribisi, che è questo attore italo americano. Lo sto doppiando ancora adesso in una serie. Però in un film che è storico, il film che ha incassato più la storia del Avatar. Cinema. Avatar? Quello è incassato. Tonino Accolla. Sì, l'indimenticato, folle Tonino Accolla. Faremo una puntata sui nostri amici Voglio che non esserci. Ci sono più. Sì, Voglio ci esserci saranno... perché io ci sono cresciuto, perché ha avuto anche una liaison con mia mamma quando ero proprio piccolo. Certo, tu pure quando fa del Natale in famiglia non si sa. No, ci stanno le sedie per tutti. Se si mangia in 10, si mangia pure in 11, ma pure in 12. Io sono stato presente a alcune cene nella famiglia. Devo dire che c'è grande osmosi. Meraviglioso. No, infatti, è un rapporto per... non è la famiglia allargata. Che devi prendere le goccette prima. Sì, 10 goccette devo prendere. Però è bellissimo. Però è meraviglioso. Sono d'accordo con te. Non è famiglia allargata, quella è una regione allargata. È una comunità. Esatto. Allora, sentiamoci Giovanni Ribisi in Avatar con la voce di Francesco Venditti. Non siete più in Kansas. Siete su Pandora. Dovreste vedere le vostre facce. Qui c'è una popolazione indigena, i Navi. Sono molto difficili da uccidere. È per questo che siamo qui, perché questo sassolino grigio si vende a 20 milioni al chilo. Il loro villaggio casualmente è situato sul più ricco di questi depositi, perciò devono andarsene. Quei selvaggi stanno minacciando tutta la nostra operazione. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una soluzione diplomatica. Manderanno un messaggio per dirci che loro possono prendersi tutto quello che vogliono. Ma noi manderemo il nostro messaggio. Questa è la nostra terra! Questa è Sparta! Sembrava all'improvviso Medicini. Bello anche questo. Pezzulli, era Pezzulli. Questa era Pezzulli? Sì. Ah, non eri tu qui? No, questa era Pezzulli. In tutto il pezzo? No, in quest'ultimo pezzo qua. No. Già aveva rischiato nell'ultimo di pezzo. Io gli dico te. Devi andare a trovare questo pezzettino di terra e lui mi risponde così. Bene, no, per un attimo lì Megoni è venuto il brivido. Ma Megoni sbaglia raramente. Beh, ma quando sbaglia devo dire a braccia alzate, Poi tanta televisione, Caro Maestro, Il Papa Buono, La Freccia Nera. Insomma, ti sei veramente barcamenato a 360 gradi, come poi Senato mi racconta la voce. Ho fatto quello che bisognava fare. Ma sì. Farò quello che dovrei fare. Insomma. E farò, certo, assolutamente. Però sai che c'è? Che nel momento in cui tu ti allontani un po' da un tipo di vita, che è quello che può essere la vita del cinema piuttosto che della televisione, inizi a sentirti a casa da un'altra parte, dove non ti manca niente. E diventi pigro, dove... attento. No, non diventi pigro, pigro perché c'è sempre il teatro. Io ho anche una mia compagnia. No, non hai mai lasciato, è vero. Il teatro è quello, è la vita. Però dove non ti manca niente anche da un punto di vista umano. Io se tu mi chiedessi che cosa ti sarebbe piaciuto fare negli ultimi 5 anni che non hai fatto al cinema o in televisione, ti posso dire che per me le due chicche sono, è quello che noi parlavamo prima, Smetto quando voglio, che penso che sia bellissimo. Una perla, e A teatro, Americani, fatto adesso da Sergio Rubini ma con sei Francesco giovane Montanari. Anche se il teatro, cioè Amleto in realtà c'ha 16 infatti, anni, lo fanno i 35 anni, e non nella è... televisione quello che sta facendo adesso Giallini, che è il commissario Schiavone, del quale poi conosco anche tutti i romanzi. Il resto, se tu mi dicessi ti sarebbe però sono fare... ruoli che magari non erano giusti per la tua fisicità. Io non parlo solamente di protagonisti, per me all'interno di quell'ambiente, quella lavorazione là, sì, non, per me non è protagonista o non protagonista, primo attore o un secondo non attore. Non esistono piccoli attori, esistono piccole parti, ma esistono piccoli attori. Esatto. E ricordo anche una frase meravigliosa, prima hai citato il Papa Buono, lavorando con Bob Hoskin, un giorno sono arrivato alle 2 del pomeriggio, lui era lì già dalle 7, io arrivo e inizio a girare le mie scene, mentre lui non ha girato niente. Alle 7 io vado da lui e ho detto: guarda, scusi se... E lui mi ha detto: scusi se ho girato prima, ma evidentemente la luce... Sì. Lui mi ha detto: non ti preoccupare, io sono pagato per aspettare, la recitazione è gratis. E quindi a quel punto poi ti si aprono e scopri anche l'umanità di certi attori. Il grande attore che non c'è più, poi è scomparso da poco. Ma scopri l'umanità perché questo poi mi capita di vederlo più fuori che nel nostro paese. Più sono grandi, esatto, più sono all'altezza d'uomo. Proprio sono con i piedi per terra. Spezzi. Ho mangiato con Denzel Washington chiedendogli un autografo a Los Angeles perché ero lì per un film che non, che non ho più fatto, ma ci hanno pagato tutti. Pensa lì, ma si che fa, bella cosa. Non si fanno i film, ma ti pagano, comunque. Qui si fanno, qui e, si non fanno ti e non ti pagano. Pagano magari, e sì. Andai a un ristorante e incontrai Denzel Washington. Lui stava studiando Flight, mi sembra, non mi ricordo quale film. E lui mi ha detto: ma tu sei da solo? Ho detto: oh, guardi, sì, sono con un altro. Pensate, dove tu sei il fiore vendito? No, vabbè, poteva capitare anche. E lui mi ha detto: ti andrebbe di mangiare con me? E io ho dei video e delle foto con Denzel Washington che tengo dentro un mio cellulare che sta là. Ma sono quelli così, io feci delle puntate a Costanzo Show con Robbie Williams, queste sono persone meravigliose. John Travolta, disponibili, carini. Senza nulla levare agli non attori. Non voglio fare Italia, quello che succede. No, no, io levo qualcosa. No, vabbè. Ma non sai, è quello, sono... è il fatto della semplicità, che poi è il segreto di è qualsiasi... l'umanità. Dai, l'umanità. Cioè, questa vita è una bellissima passeggiata, no? Esatto. Se fra qualche anno dirai un ragazzo, mi canti una canzone, vabbè, dei venditi sa, ricorderanno sicuro, ma dici già un ragazzo di No Manfredi o Tognazzi, dici con chi giocano. Hai ragione, no? Capito? Per cui capisci che sì, il passaggio, sì. Sa, bisognerebbe ricordarli di più, e devo dire che il torneo Tognazzi. È una volta, che bello. C'era questo torneo meraviglioso a casa Tognazzi, dove il grande Ugo a Torvaianica. Ovviamente non relegava questa cosa soltanto ai grandissimi come Gasman, Tognazzi, Venditti, c'eravamo eccetera. Anche noi c'eravamo anche noi, l'abbiamo sto per morire, ma aveva fatto costruire, ha fatto costruire una tribuna per la gente. Stupendo. Una tribuna di 1000 posti per la gente di Torvaianica, cosa... che voleva venire ad assistere dal vivo a queste partite di grandi attori, e se gli stavi simpatico stavano zitti mentre sì, battevi, altrimenti... Però noi siamo sempre stati simpatici, buoni, devo dire. Io mi ricordo Tiragli in 33 giri, esatto, non me la scorderò mai. A Ciufoli hanno detto: c'hai i capelli postdatati. No, no, quando gli stavi antipatico, loro mentre battevi, facevo... Oh, però, quello era anche un incontro. Adesso incontrarsi è sempre più difficile. Sì, fra le persone che fanno lo stesso mestiere, e sia con la gente. Io la mi gente. Ricordo, non mi scorderò mai una cosa che ho avuto con Facebook. Io non sono più su Facebook, penso che non essere su Facebook sia rivoluzionario. Adesso sì. Nel momento in cui ho levato le mie due pagine, i miei amici mi hanno chiamato e mi hanno fatto: ma perché hai levato Facebook? Così mi chiami. Esatto. Così ci vediamo, così mi telefoni, così se hai un problema non mi scrivi 4 pagine, ma ci vediamo, ci fumiamo una sigaretta, infatti, ci beviamo una birra e stiamo insieme. Posso essere tuo amico su Facebook? Ma siamo già amici. Sì, cioè, sì. Poi oppure la gente ti riconosce e ti dice: oh, ma non mi riconosci, io sono amico di Facebook. Ma c'è una fotina così, non, esatto, non lo so. E quindi può essere un ottimo veicolo commerciale, no, è per bellissimo, fare pubblicità, perché poi per è carità. Una piazza, è una grande piazza, sì, però sì. Adesso credo che ci sia proprio bisogno anche proprio di tornare al contatto. Torniamo all'analogico. Logico, viva sì. Il valvolare. Senti, qui mi dicono pure la voce di Bestia. Di Bestia, sì, su X-Men. È vero? Sì. Perché c'è questo dualismo, Bestia con gli sì. X-Men, ma Deadpool... Beh, perché io l'attore di Deadpool in realtà l'ho doppiato prima di Bestia, dentro un altro X-Men. Ecco, esatto. Perché l'ho doppiato io là. Perché in realtà Ryan Reynolds ha anche altri doppiatori. E forse posso dire che forse il più giusto è Nesimo Onorato. Però... Sì, ma in questo film tu sei stato straordinario. Film va bene, però è anche dire, no? È come sì. Su Narcos. Io faccio ho fatto Narcos. Narcos è la serie più bella di Netflix nasce, in questo momento. Non nasce con me attore, nasce con me direttore. Poi per 2 turni l'attore che doveva farlo mi ha dato sola, e a un certo punto io dovevo consegnare e ho detto: va bene la mia voce, ho fatto un provino, l'ho mandato, hanno detto: fallo te, amen, arrivederci, grazie. Ma bellissimo, sei anche candidato, vi ricordo il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio il 6 dicembre all'Auditorium Massimo di Roma, dove abbiamo dato la possibilità ad alcuni dei nostri radioascoltatori di partecipare. Io credo, poi vi darò ancora più conferma, intanto collegatevi con www.premiodeldoppiaggio.it, potete prenotarvi anche lì o scrivere una mail se volete partecipare. Abbiamo 100 posti, ci siamo quasi arrivati, ma continuate a cercarci e avete la possibilità di partecipare a questa serata gratuita, ovviamente, perché è solo spettacolare, è la festa del doppiaggio italiano, una festa, chi vince vince. Assolutamente, ma è una festa. Però questo che volevo dirti poi, in realtà, la differenza poi che c'è tra il mondo del cinema, della televisione e del doppiaggio è che il doppiaggio è molto più immediato. Sì. Se passi davanti a una sala e un direttore non ti chiama da tanto, non ti sente da tanto, magari si ricorda di te e tu il giorno dopo stai facendo un turno con lui, magari di un protagonista o di un... Così che bisogna fare, io ancora busso, è giusto. Bisogna io volevo fare Downton Abbey, bisogna... non ci ero riuscito, busso proprio a Gianni Galassi e faccio scusami. Bisogna fare così. Ma io non ti sto antipatico come uomo, ma come attore, come conduttore, così. Posso fare è Downton bello, Abbey? Io adesso stiamo facendo una serie che si chiama Designated Survivor con Kiefer Sutherland, e a me una settimana, 10 giorni prima che arrivasse questa serie, Massimo Rossi, poi ho scoperto che non era solo lui mi ha chiesto: ma che mi fai sapere se vi arriva questa serie, perché vorrei farla. Quando tu senti uno come Massimo Rossi che non è che doppia, quello più meno forte forse è Sean Penn, ecco, gli altri sono ancora, quando leggi l'entusiasmo ancora da un professionista del genere, tu dici hai vinto. È giusto così, non è per i soldi. Sono felice che lo faccia tu. Non è così ricco il mondo del doppiaggio. Un giorno daremo le cifre. Senti, però a questo punto, visto che fra poco finisce questo blocco, ma non è l'ultimo con te. Io sono qua. Fra un po', prima di rendere osmotico il passaggio con questo gruppo di cardiopoeti, bello. E subito dopo mi sono tenuto la chicca. Queste sono tutte chicche, ma finire la trasmissione negli ultimi 40 minuti, 45. Con un grandissimo ex arbitro internazionale, ti ascolterò. Disegnatore degli arbitri della Serie B, e qui abbiamo chiesto un permesso speciale, ovviamente, ma un grande amico, un grande comunicatore, che è Stefano Farina, è lì proprio dall'altra parte del vedo, già è qui. Se ne sono accorti adesso che lui non ha tirato fuori neanche il cartellino, eh? Attenzione. Per cui è una delle Scatta prime volte. Che, perché poi con lui passeremo la parola a tutti i convocati, a Maina Gioia, come chiamo io, Capuano, Pardo, perché ogni volta mi lasciano a Lazio per ultimo e capisco già dalle loro parole come non è andata a finire. Ma chiudiamo questo blocco con Deadpool, dai. Sì. Spero in un momento in cui non dice parolacce, che... non lo so, ma non c'è problema, okay. Abbiamo fatto anche qualsiasi Trainspotting, no, perché, insomma... il monologo di Trainspotting, la parola più semplice che dice, cazzo, 300 volte, per cui non abbiamo, siamo sdoganati da Giuseppe Cruciani, siamo sdoganati qui a Radio 24. Vai con Deadpool. Ti amo, Wade Wilson, possiamo combatterlo. Hai ragione, il cancro ha intaccato solo fegato, polmoni, prostata e cervello, cose di cui posso fare a meno. E se ti dicessi che possiamo farti guarire? Promettimi solo che farai il mio bene. E io farò il bene di qualcun altro. E vi prego, non fatemi il super costume verde. Ho animato! Una cosa non sopravvive qui. Il senso dell'umorismo. Staremo a vedere, Posh Spice. Oh, ma dai! Mi lasci qui da solo con questa faccia da simpaticona. Fermi! Forse vi domandate perché ho il costume rosso. Così i cattivi non possono vedermi sanguinare. Ecco, lui ha capito tutto. Ha messo i pantaloni marroni. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci, Voice Anatomy. Invece apriamo questo blocco, l'ultimo, insieme a Francesco Venditti, ancora con la sua voce all'interno di un film, caro Francesco, altrimenti Mauro Meconi, che fatica per scaricare i momenti importanti della tua vita come doppiatore, si arrabbia. Che preferisci, Lance Matheson di Canone Inverso o Justin Long della Verità è che non gli piace abbastanza? Justin Long. Sì. E allora, la verità è che non gli piace abbastanza. Senti, mi sembri una ragazza a posto, quindi voglio essere sincero con te. Connor non ti chiamerà mai. Ah, davvero? E come lo sai? Perché sono un uomo e noi facciamo così. Ha detto che era stato bello conoscermi. Non importa se ha detto che eri la sua donna preferita dopo sua madre e Johnny di Happy Days. È passata più di una settimana, giusto, Gigi? E non ti ha chiamata. Ma forse ha chiamato e non ho ricevuto il messaggio. O forse ha perso il mio numero, o è fuori città, o è stato investito da un camion, o gli è morta la nonna. O forse non ti ha chiamata solo perché non gli interessa rivederti. Sì, ma la mia amica Terry una volta è uscita con un uomo che non l'ha richiamata. Lei lo aveva completamente dimenticato. Sì. Dopo più di un anno l'ha rincontrato per caso e alla fine loro sì, due... Sì, la tua amica Terry è un idiota ed è anche un'eccezione. Tra parentesi, un'eccezione rara. Ok, ok. Ma se fossi anche un'eccezione? No, non sei un'eccezione per niente. Anzi, tu sei la regola e la regola è questa. Se un uomo non ti chiama, non vuole chiamarti. Davvero? Sì. Sempre? Sì, sempre. Sempre, eh? Sempre, è assolutamente così, eh? Sì. Ciao Pino, non vi vedo, ma vi immagino. Due uomini molto belli e sexy, dice Roberta. No, ma c'ha ragione. Robert. C'ha ragione. Ma perché belli d'orto? No, dai. Diamo ragione. Quando la vita è così bella quando ti dicono queste cose. Ma è bella perché poi è giusto. Come sì, fai? È normale. È normale vivere con questi così, corpi. Così tanto per sentirsi, no? Esatto, normale. Quelli semplici e umili. Considerato che sono solo e inizio a mangiare a quest'ora, voi i migliori graditi ospiti intelligenti. Grazie Pino, grazie Francesco. Grazie cin cin di quello buono dovuto. Bravo cin cin. Grazie anche a te, ma tantissimi altri complimenti, eccetera. Dai, qualcuno che scrive. Eh no, c'è cioè, qualcuno che dice male di una cosa, non di noi, ma dai, dillo, all'età dillo. Di sei anni ho avuto l'opportunità di incontrare Vittorio Gassman nell'albergo gestito da mia madre. Quando gli ho chiesto l'autografo, me lo ha fatto senza guardarmi. Lo fanno. Vabbè, può succedere. Lo fanno. Può succedere, lo fanno. Sì. Perché uno deve anche immaginare che magari quella era una giornataccia per la persona. Non bisognerebbe. Non però, bisognerebbe, perché così. Come il medico millesimo so. Che c'ha qua la malattia, quella è la prima volta lo che so, ce l'ha. So, per lo cui lo quella so. È la prima volta che ti. Pensa a me per strada. Fra Roma e Lazio, che cosa mi dicono a sta città? Posso immaginare. Ma fa sempre finta non di niente. Non voglio immaginarlo. No, a me per invece, pensa, invece per farmi del male mi dicono, ah vabbè sì, a Baglioni, ma state zitto. A Baglioni, certo. A me capire, per adesso fra Insigne, Insinna, Insegno. C'è una signora che mi ha chiamato Insegne l'altro giorno. Pino Insegne, ha mischiati tutte e tre. Oddio, vabbè, Perugia Lazio avevi fischiato rigore, Farì. C'è qualcuno ce l'ha già con Farina. Già ce l'ha con lui, vabbè, non c'entra niente, qui ci siamo noi è adesso. Stupendo. No, vabbè. Ciao Pino, ringrazia Francesco Venditti, però quando puoi anche Massimo Lodolo, sì, arriverà, ho parlato grande, ieri Massimo. Con Massimo, ma grande. Verranno tutti piano piano, insomma ce ne abbiamo tante di puntate. Senti, a questo punto ti metto anche canone inverso, dai, su, così è contento. Sì, sì, no, no, beh, poi sono legato perché quello è un film di Ricky, quindi... Sì, bellissimo film americano, come è solito credo, fare Ricky credo e Simone, che tu abbia detto proprio la verità. Dai, sì, fa, era un grandissimo film. Era ha un fatto grandissimo. Dei film, veramente la scorta. Ultra eccetera film internazionale ultra è stato pericolosissimo ultra è stato per tu me... e Amendola no io Amendola non ero sempre sul set su quel giorno sì posso... sì tu nel senso c'era Amendola come protagonista sì no però Alessandro Tiberi l'ho portato io sul al grande un altro al grande doppiatore io l'ho detto io di fare il provino ad Alessandro tu sei veramente Tiberi. Un uomo altruista pazzesco ma bravo. Perché per me io sai il problema mio è che questo dovrebbe essere la normalità no? È vero questa era la normalità ma però non è io mai quando così. Avevo 17 anni io volevo fare il carabiniere gruppo speciale dei carabinieri certo. Perché già mi sentivo un privilegiato e quando sono andato a fare i tre giorni io purtroppo in quell'occasione avevo già fatto delle cose in teatro avevo fatto una pubblicità avevo fatto già un film e quello mi ha detto guardi il gruppo speciale lei non lo può fare certo, quindi te, no, ti riconoscono da là e poi ho lasciato la carriera come se militare, Fede Serpico facesse iniziato. Il poliziotto però dai, in realtà siamo... la mia cosa era fare il gruppo speciale e andare a salvare le persone dai terroristi già all'epoca quindi figurati in periodi non sospetti in periodi non sospetti però la faccia volevo fare quello da poliziotto fare. Gagliardo ce l'hai stai maturando tanto, sai, ormai i poliziotti hanno la faccia delle guardie, le guardie dei ladri, ormai si è tutto un macello. Vabbè, vediamo se succede. Ma hai fatto veramente l'assassino, lì ha fatto il bufalo sì, fino infatti. Adesso. Allora, sentiamoci questo canone inverso, Hans Madison, doppiato ovviamente da Francesco Venditti. E poi, visto fa. Che siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento con te, ti chiederei di leggere una poesia. Fra le tre che hanno portato questo gruppo di poeti e non solo, grandi sceneggiatori e grandi autori teatrali, veramente hanno vinto qualsiasi sarò tipo di premio. Sono onorato di questo. Ma sono bravi davvero, guarda, non è un caso che sono qui, non dobbiamo riempire gli spazi di Radio 24, no, perché fantastico. È una radio selettiva e noi anche cerchiamo di selezionare al massimo. E allora ascoltiamo Hans Madson, canone inverso, se non l'avete visto, guardatevelo. Vai! Una storia d'amore e di amicizia, dove il mistero coincide con la verità. Devi stargli addosso. Il violino è come una donna. I fianchi, le spalle, il collo. E l'archetto è il tuo strumento. È bionda, ha gli occhi chiari e lunghe, lunghissime dita, ma inafferrabile. Come la musica. Sto sognando per caso? Questa è la prova che non ho incontrato un fantasma. Quella musica è un canone inverso. Stiamo facendo l'amore! Vigliacchi! La musica è la spada con cui conquisteremo il mondo! Di chi è quel violino? È mio. Me lo ha lasciato mio padre. C'è posto per uno solo di noi. Allora, questo era Canone Inverso con la voce di Ricky Tognazzi che accompagnava questo trailer. Bello, film bellissimo. Ricorda un po' un film americano che ha avuto un poco successo ma straordinario, Il Violino Rosso, un altro film che camminava la musica straordinaria di John Corigliano. Amico mio, sono già entrati i nostri amici, anche se non tocca ancora voi, con tanto di boccette d'acqua, telefonini, e che sono solo due sedie, ma intanto occupatele queste due, il terzo lo mettete in braccio. Quando mi dicono che prima o poi morirai, io rispondo: il seme dell'albero con cui faranno il mio baule deve ancora essere piantato. Dice, è un altro aforisma. Ammazza. Andrea, va bene. Bello. Capito? Altri complimenti che ti arrivano, ovviamente. Niente, ma solo una cosa negativa, no. Ma dai, no. Senti, ma i tuoi figli, questo mestiere? I miei figli, mia figlia adesso che ha 19 anni, mia figlia adesso a 19 anni ha ricominciato un pochino anche lei, perché giustamente vuole anche lei intraprendere un pochino, l'ha lasciato, l'ha fatto pochissimo quando era piccola, c'era ancora mio nonno, c'era ancora Renato, l'ha fatto con lei. Però adesso sta ricominciando, mentre invece mio figlio Tommaso è un rocchettaro che suona e canta in inglese, e sono felice per lui perché ha trovato una sua dimensione nel... magari nonno gli fa un pezzo, io vuoi far nonno, ma non è rocchettaro, secondo me nonno. È lui che fa un pezzo al nonno. Nonno. Meno male che sta sull'aereo. Sì. No, ma lo dice anche lui. Sì, E mentre invece poi c'è un altro bambino che si chiama Leonardo, che ha un anno e mezzo, che secondo me lui inizierà subito a fare doppiaggio. Lo faccio fare con mio figlio che c'ha 2 anni, piccolino. Guarda, io credo che sia per i bambini farlo subito. Dopodiché devono andare a divertirsi con gli amici, e quando sono un pochino più grandi ritornare, perché intanto è come, credo che il doppiaggio è come una bicicletta, appena lo poi impari dalla tecnica, lo impari poi nella dizione, poi anche c'è anche devi averci anche tanta passione, sì, perché poi da piccoli puoi bypassare il fatto di non essere già un attore, mentre se lo cominci esatto. devi essere prima un attore, sì, esatto, e poi esatto. E studiare, mentre per fare l'arbitro puoi essere non stato un calciatore, vero Farina? Io leggo i labiali, forse è meglio, ecco, va bene. Allora, ci hanno raggiunti i nostri amici che poi presenteremo bene quando toccherà fra poco a voi, però è stata scelta una poesia. Io leggo una poesia che si chiama, l'ho scelta dal titolo, perché si chiama Non può essere, di Marco De Cave. Marco De Cave, e poi c'è Mariano Macale e Fabio Appetito, sono i tre fondatori di questo movimento arcadico ottocentesco. Continuate così, perché non deve, la poesia è una delle poche cose che non deve morire. Mai, ma poi li racconteremo per bene. Allora, musica degna scelta poco fa con il mio amico Alessandro, proprio di Philip Glass, The Hours, e la voce di Francesco Vendetti. Non può essere la storia sola sulle tue spalle. Tu che ci hai insegnato l'ansia di vivere, di contare i tumori irrequieti dei tempi, strozzati dalla coda dei tuoi capelli, un argento troppo sprecato dalle miniere della memoria. Il male di vivere si incontra solo se si tiene il passo degli altri e delle bufere puntuali che accadono perché tutti vogliono. Il tuo tempo a noi non ha mai dato conclusione. Bene, visto che sono viventi gli autori, possono commentare. Potete dovete commentare, perché leggere delle poesie di persone viventi non è... Però il poeta è meglio che non legge normalmente. Se dovessimo spiegare... Tu sei tu Marco, vero? Sì, sono io Marco. Sei l'autore. Secondo me è lui Marco, ma fa finta di essere lui. 26 anni, eh? Sono bravo io. Marco. Se dovessi da dove è arrivata però? Dove è arrivata? Dico la verità vera. Sì. Nasce in realtà dalla come dire, reazione verso la morte di Marco Pannella. Semplicemente mi ha fatto impressione il fatto che il suo corpo, al di là appunto della... Quindi meno male che è vivente, che ci spiega, perché chissà dopo, postumo, che cosa, cosa? Potevano tirar fuori, perché sapete la glacialità delle intemperie, no, del beh, mondo. Però, sai, a 26 anni? Sì, 26 già anni. Già avere 90. Una consapevolezza così, non solamente politica a questo punto, anche, ma anche umana, verso un personaggio come Marco Pannella, che ha fatto la storia, però sì, quando tu avevi 12 anni... Cioè, guarda, facciamo una bella cosa, visto che è finito il blocco, puoi rimanere altri 10 minuti? Sì, tu? Certo. E allora, fermati qua, aggiungiamo una sedia e accogliamo come degnamente meritano questo gruppo, con la testimonianza anche vocale di Francesco Venditti. Stefano Farina non lo faccio entrare, perché tutto può fare meno che leggere una poesia. Beh, però sarebbe meraviglioso. No, me potrei convocati di starta settimana, ma non me può leggere bene, una poesia, sì. Stefano è bravissimo, io lo conosco, ma non può farlo. Signori, allora rimanete con noi, Voice Anatomy, i nostri tre amici ci hanno aggiunti, Francesco Venditti, Farina ancora dall'altra parte del vetro insieme ai miei autori. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, al mio fianco è rimasto sì, l'amico professionista Francesco Venditti, si sono aggiunti i nostri tre amici di Cardio Poetica. Potete mettere la cuffia, non ti piace mettere la cuffia? Non sì, senti? Sì. Ma che vuol dire Cardio Poetica? Cioè, beh, palestra? Esatto, tipo cardio fitness, cardio. Cos'è? Puoi alzare il... aspetta, spiego un attimo come che alzare il volume. Del cuore, che cos'è? Senti dov'è il tuo cursore? Sì, sono poeti, non sono tecnici. No, certo. Ci siete? Sì, sì, ci siamo. Allora, tu hai letto una poesia prima di Marco Di Cave. Sì. Noi presentiamo uno per volta. Marco Di Cave, classe 90, scrive, viaggia, studia, lavora in lungo e in largo per l'Europa, parla 5 lingue. Sì, esattamente. Vuoi anche sapere quali? Sì. Vabbè, dunque abbiamo inglese, vabbè, italiano, vabbè, chiaro, no, dai, ce la facciamo, dai. Spagnolo, polacco, un po' di svedese, del danese anche. Ma quelli li ha utilizzati per un rimorchio personale, per infatti, la poesia. Appena detto svedese è scattato subito. Sì, dai, lo svedese non può essere esatto, utile. Cioè il norvegese e lo svedese posso capire nei tuoi viaggi, hai tradotto anche le tue poesie in svedese a questo punto? In realtà no, ho provato in altre lingue, ancora lo svedese non ci riesco, no. Manca un ma po'. Ma il polacco perché? Il polacco ho fatto per il fatto che insomma sono stato in Polonia in Erasmus e poi insomma ho viaggiato spesso e attualmente ho la ragazza appunto polacca. Ah, quindi, ecco, attenzione, come si dice a Roma, dimmi tutto il quanto, è un nome di solaro d'onda. Dai, su, Va bene, è servito a questo, però adesso ovviamente giochiamo. Ovviamente sei l'anima organizzativa delle cardiopoetiche, si interessa in tematiche sociali e integrazione nella progettazione europea. Esatto. Questo è il nostro amico Marco Di Cava, a soli 26 anni. Poi abbiamo Mariano Macale. Ciao Pino, eccoci. Classe 85, già un anziano rispetto a Marco, formazione classica giuridica, scrive praticamente da sempre, vince svariati premi letterari, tra cui spicca la 14ª edizione del premio Fabrizio De André, sezione poesia. Beh, non è male, sì, amico mio. Un nome importante, impegnativo, per me ha rappresentato, per noi, perché poi il premio sì è una conquista personale, ma all'interno di questo progetto è soprattutto una conquista collettiva, un punto di riconoscimento, se vogliamo così dire, utilizzare una brutta parola, traguardo, ma traguardo non ci piace tanto, ci piace più ripartenza. Hai capito? Bellissimo. Stiamo facendo la figura degli ignoranti. Tu no, dici, ma perché io, accumulare anche perché mi hai fatto storia? Rimanere altri 10 minuti? Esatto, potevo sbagliato andarmene prima, perché non volevo rimanere da solo. Finire in questo con momento. Deadpool in bellezza. Ci stanno 6 lauree, 4 diplomi. Sono qua con te, per cui te. Starmi vicino, Francesco, stammi vicino. Fabio Appetito, è già il cognome, sì, tutto un programma, è nato e questo per lui è già troppo. Effettivamente il peso della vita è talmente forte che questa penso che sia la sintesi del mio vissuto finora. Il peso della vita è molto forte. Ragazzi, qui siamo davanti ai leopardi, sì, in confronto a uno sereno. No, vabbè. No, non è così. Beh, ma il poeta deve essere un po'. Il poeta deve essere così. Tormentato. Che poi sia realmente così o è soltanto il personaggio, questo poco conta. Vabbè, ma anche il cantautore, bravo, insomma, vero, papà, tuo padre, insomma, ha cominciato, sì, con delle canzoni parti meravigliose, ma anche lì c'era la ma visione. Ho degli aneddoti meravigliosi. Ma guarda, dovremmo farlo venire. Ho degli aneddoti meravigliosi. Io posso dire che Roma Capoccia, credo. Sì. Quella vedola maestà del Colosseo, okay. Del cupolone. Perché poi non le ricordo. Io ricordo, cioè, mio padre mi racconta ogni tanto. Cioè, mio padre ha scritto quella canzone, credo, a 16 anni. Perché la mamma non l'ha fatto uscire per una settimana. Beh. E quindi lui si immaginava Roma in quel caso. E quindi vedi, io poi ogni tanto dico, lo vedi che chi c'ha mamma non piagne, si dice, no? Chi c'ha mamma non trema. Quindi quella, grazie a quello scazzo con tua madre, è nata una delle canzoni più belle. Quindi poi è vero che il tormento aiuta. Dai, sul tormento aiuta. Il tormento e l'estasi. Allora, chiedo scusa. Ti dico come siamo andati noi. Ti dico che magari nasce un altro scazzo. Dai, sì. Praticamente dovevamo pagare una multa. Perché abbiamo beccato una multa e dovevamo inventarci qualcosa per pagarla, perché non volevamo dirlo, insomma, ai nostri, ma parlo di 5 anni fa, 6 anni fa. Sì. E dunque ci siamo inventati, bene, allora scriviamo, ci conosciamo, abbiamo fatto un po' di... Ma hanno fatto una multa insieme, voi tre? Sì, cioè... stavamo insieme, non ricordo, credo che guidassi io adesso. Credo che si sta già declinando ogni responsabilità. No. La responsabilità la prendo. Alla fine abbiamo pagato la multa facendo appunto spettacoli, insomma, a livello locale. Però è stato lo startup, lo slide indoors, come siamo sempre qui. Esatto, e quindi eccoci. Anche lì dà uno scazzo particolare. Allora, Fabio Appendino, dicevo, è nato, e questo per lui è già troppo. Laureato in scienze umanistiche presso la Sapienza di Roma, con una tesi su Alda Merini, dal titolo Alda Merini, un manicomio di carta, con il quale vince il premio internazionale Merini nel 2016. Devo dire poi questo spettacolo lo stiamo prendendo, perché Alessia Navarro, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una grandissima attrice. Ricordo un Frida Kahlo straordinario, che poi riprenderà al Teatro Quirino di Roma a fine stagione. È premio internazionale, si sta specializzando in storia dell'arte, ha curato varie mostre come critico. Nel 2011 ha conseguito l'attestato di copywriter presso Lilas di Napoli. Sì, esattamente. I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e sul sito Terra Nullius. I tre scrittori fondano nel 2010 questo gruppo, infatti 5 anni fa, il gruppo Cardiopoetica. Hanno pubblicato i libri State Scherzando, vero? Edizioni Ensemble, e Resuscitati con SH, tipo sushi, giocare su questa parola, avete giocato, Edizioni Il Foglio. Oltre a racconti su diverse antologie, Cardiopoetica ha ricevuto il riconoscimento Pierpaolo Pasolini, ha vinto i premi Latina in Versi di Andrea, Alda Merini, collabora con Radio Bullets. Bullets. Chiedo scusa, io l'inglese, sapete, lo parlo, ma non voglio essere uno che... Bravo. Che dà fastidio. Se no poi uno si vanta. Esibizionismo, sembra sempre non mi piace. Fondata da cose, giornaliste di fama internazionale e alcune riviste, tra le quali Flareni. Santa miseria, hanno fatto tutto e hanno 25 anni. E sono dei poeti. Bravissimi. Siete originari di Cori. Esattamente. Cori è un piccolo paese meraviglioso, vicino Velletri, tra Latina e Velletri, sì, insomma, al centro. Provincia di Latina. Provincia di Latina, devo dire, molto bello, ed è più antico di Roma, pensate. Cori? Cori. Sì. C'è almeno 500 anni più di Roma. Questo è il motivo. Dice, almeno qui saranno della Lazio. Quindi, no, perché sono 500. Quindi siamo nati dopo Cori, anche noi della Roma. Esatto. Proprio non si capisce questa cosa. Comunque così. Allora, che cosa spinge tre giovani ragazzi a interessarsi di poesia e farla diventare da piccolo caso locale a una forte connotata realtà nazionale? Chi risponde a questa domanda? Allora, bisognerebbe... Mariano. Sì, bisognerebbe prima di tutto capire se uno è poeta per scelta. Abbiamo una T particolare, eh? Attenzione, eh? Attenzione. Allora, qui è uno studio, te lo dico, no, perché attenzione. E qui facciamo anche tutorial sulla voce, per cui se ci fosse stata la nostra amica locopedista, eccetera, ci avrebbe spiegato il motivo di questa T attaccata. Attenzione, al palato. È che è un po' costanziana, eh? Attenzione. Lui lo fa perché c'è un po' di ciccia. Attenzione, 1-0 ha segnato la Roma, ma anche la Lazio. Per sulla cui... T. Sulla T ha segnato Roma. Non lo diciamo perché in questa trasmissione c'è uno studio sulla parola. Allora, prima lo dicono gli altri, senti che T, tu te lo devi dire da solo. Va bene. Va bene, leva tutte le T. Togliamo tutte le T. Bravissimo. No, l'hai detto. Va bene, non ce la puoi fare. Dimmi allora, dimmi. Prima di tutto bisognerebbe appunto capire se si è poeti per vocazione, oppure per scelta, oppure perché doveva andare così. Io dico sempre che siamo poeti per vizio. Abbiamo provato a smettere, frequentando magari anche qualche circolo per poeti anonimi. Tipo alcolisti. Sì. Ciao, mi chiamo Mariano. E ciao, non scrivo Mariano. Poesie da 4 giorni. Esatto. Bravo Mariano. Però non ci siamo mai riusciti, quindi il vizio è andato avanti. Quindi è anche un'esigenza, però. È un'esigenza inevitabile per esprimere poi una nostra visione del mondo o anche una veduta. Marco, tu sei quello che tiene in piedi, quello che ha fondato questo gruppo, il leader momentaneo, perché poi no. Vi alternate, i leader non esistono. No, non ci siete, sono tre leader, soltanto che magari chi è più in forma quel giorno è il leader e gli altri lo seguono, deve essere sempre così in qualche modo. In realtà quello che io penso è che siamo anche un po' un piccolo miracolo, nasce da questo, dal fatto che ciascuno di noi ha una conoscenza, un background diverso e ci muoviamo appunto attraverso questo equilibrio interno. Se io sono più bravo un po' a organizzare è perché la mia vocazione. Vi compensate tra di voi. Assolutamente. Nasciamo tra l'altro per motivi ecologici, cioè mi spiego. Siamo vicini di casa, giocavamo a tedesca quando avevamo io 5, Mariano 10, Fabio a metà tra noi. E nasce la poesia, nasce come un percorso in parte condiviso, diciamo, dall'adolescenza, ma poi ricordo proprio la notte specifica sotto casa, appunto, in cui prendemmo questa decisione di partire. Il nome Cardiopoetica, devo dire, nasce principalmente da Mariano, che è il creativo, per esempio, del gruppo. Sì. È il copywriter, insomma, sì. Però Fabio, per esempio, rappresenta l'anima letteraria. Io lo chiamo il Baudelaire del gruppo. Questo il qui. Baudelaire. Quindi è quello che porta la roba, insomma. Esattamente. Quello che rimedia almeno. Dai. Vedi come siamo dissacranti. No, però porta attenzione, amarezza. Porta la mansarda, Fabio. Poi... Dove si scrive, Fabio? Sì, la mansarda, dove ci riuniamo di solito per fare delle riunioni, per parlare di tutto. Ma solo anche voi tre cose terrene. O anche cose... Anche... Beh, si parla di tutto, che do la vita. Ci no, sono ma anche dico, i filosofi fanno questo. I filosofi fanno questo, si riuniscono in riunioni arcadiche, come piace bellissime, definirle, bravissime. Un tema... sì. E da lì comincia a sciorinare una serie di situazioni, immagino. Anche perché cioè noi tre, per esempio, non abbiamo nessun interesse nei confronti del calcio, ad esempio. No, però tutto è nato dalla tedesca, mi avete detto. Sì, beh, però... E non siete riusciti a fare mai una poesia su pallone, una palombella piuttosto che un cucchiaio, ora non per tornare a Totti, ma una punizione, cioè giocavate a tedesca e poi dopo lo e siete poi, dimenticato. Sì. Quindi l'innocenza. Cioè, avete dimenticato le vostre radici. Dimmi, Mariano. Questo perché probabilmente a volte facevamo dei gol che erano delle poesie. Quindi non c'era bisogno di scrivere. Dobbiamo andare in pubblicità. Meglio andare in pubblicità, ma torniamo subito dopo con i nostri io amici di Cardiopoetica. Tu te ne vai. Vi venditi. Saluto e vi ringrazio di avermi fatto passare quest'ora con voi. Incastreremo papà. Sì, assolutamente. E tu sarai l'ospite a sorpresa. Felice. Diciamo, mandi incazzare. No, è meglio dirglielo però. Bisogna dirglielo. Bisogna dirglielo perché sennò poi si incazza. Va bene. Vabbè, grazie. Signori, Francesco grazie Venditti, infinite, grazie Francesco, infinite. A fra poco a con i nostri grazie. Amici. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, i nostri amici di Cardiopoetica, che riavremo sicuramente in questa trasmissione perché ci vorrà tanto altro tempo per raccontarvi. Ci sono due poesie ancora da leggere, se volete io le leggo. Come no? Volentieri. Una è di Fabio Appetito. Fabio, cosa rappresenta per te la figura della poetessa Alda Merini? Intanto è stata molto importante. Sì, è stato un incontro molto importante nella mia vita, sia per la sua esperienza che comunque ha avuto all'interno del manicomio, sia per tutta la sua produzione artistica. Mi sono avvicinato a lei attraverso la tesi di laurea che ho fatto, nella quale poi tra l'altro ho conosciuto la famiglia del secondo marito della Merini, che era la famiglia Pierri, e che mi ha portato anche a scoprire delle cose inedite riguardo la vita di Alda Merini. E poi c'è stata la vincita di questo premio, esattamente a settembre, in cui sono stato premiato dalla biografa di Alda Merini, Luisella Veroli, ed è stata una bella soddisfazione. Beh sì, non ci sono raccomandazioni o scorciatoie di sorta. No, qui. Infatti, e poi io artisticamente parlando sono molto grato a questa figura, perché dico sempre che Alda Merini mi ha insegnato la decenza del coraggio, e questo mi ha portato a scrivere una sceneggiatura teatrale, un monologo dei tre balleri. Bellissimo, anche Stefano Farina ci ha raggiunto, anche se dopo staremo con lui, ma Stefano era giusto che sia testimone. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te di essere venuto. Prova a leggere la tua poesia, Fabio, e poi leggerò quella di Mariano, sì. Speriamo di avere del tempo. Non è facile perché non l'ho letta prima. Ah, ecco. Come bene. Tutti i veri attori, i doppiatori non leggono prima, non lo sanno, per cui si intitola Conosco. Speriamo bene. Conosco i miei demoni. La notte che si sussegue, più scura, guidata da Cassandra. Conosco la foschia quando si chiude come una mandibola e non ti lascia vedere, non ti lascia muovere. Per questo riconosco il bisbiglio delle ossa che scricchiolano. Conosco Stalin per fama o esempi, e per quanto ne dicano i diritti umani, conosco il peso di ciò che non si poteva evitare. Conosco la tua espressione quando ti svesti, di cui nemmeno tu hai nozione. E il modo in cui ti versi ancora nel cucchiaio lo zucchero di canna o farfugli la biopsia insindacabile passando di sala in sala un museo. Conosco la colpa e il peccato, che sono due cose ben distinte. Il golf e gli enormi buchi neri in cui si cade anche senza palla o al di là della fisica. Conosco il sesso violento, la liberazione dello scroto, che avevano un senso prima di comprendere il bene che potevano essere. Conosco la grazia, che è natura anche quando una mano raffredda una fronte madida, e gli usci che non attraversa più nessuno, sui quali nemmeno il vento tenta di spostare la polvere. I citofoni, che perfino i postini deridono leggendone i cognomi, e la collera di un animo buono. Conosco il riservo che il mio telefono mi porta, restando in silenzio quando io alzo la cornetta e gli chiedo di restituirmi la tua voce. Conosco il vuoto, fitto, come il mare dei sargassi, la lipotimia della prima ora senza un figlio. Conosco l'attesa stralunata, gli sogni del pianto, il sapore moribondo del dolore che si appresta a diventare aceto, e la noia smodata dei monumenti costretti a restare lì per secoli, imperterriti, esattamente come me quando decido di amare. Conosco le seconde possibilità, e anche le terze o le ventiquattresime, le mie pupille che diventano grandi come quelle di un ciclope quando decidevo di guardarti dentro. E conosco perfino l'odore di polvere da sparo se un cuore cade a terra, esamini, ma ancor prima di una fucilazione. Conosco la fine quando è perentoria. Beh, bella, l'ho amata mentre la leggevo. Ne sono contento. E da cosa nasce tutto ciò? Tu, lui per la morte di Pannella. Tutto questo che conosci tutto e non conosci niente. Sì, esattamente. Comunque nasce da una separazione in realtà, quindi. Niente di più duro. Ecco. Uno deve saper soffrire, sorridere di una lacrima per sapere raccontarla. Rimangono 3 minuti insieme, leggo anche per un periodo di bisogna essere pari col sì e col no, per cui bisogna essere no anche in questo caso. Però tornate, questa è una promessa, che dobbiamo assolutamente parlare di questo gruppo straordinario. Vi chiedo scusa anche questa di Mariano Macale, finisce qui, vero? E non voglio leggere, e questa è la fine della poesia. Va avanti, vedi qui? Sì, avanti, sì, perfetto. Qui. Perfetto, non volevo rimanere a metà. E allora proviamo. Anche Marea di Mariano Macale. Il mio ultimo giorno lo passerò con te al mare. Sì, tu non ci sarai. Non ci sarò nemmeno io, cronico ritardatario. Ma non ha importanza esserci per certe cose. A volte è sufficiente sognarle. Sarà una di quelle fredde giornate di sole, quelle in cui neppure i poeti si sforzano di trovare chissà quali parole. Non versificano, non toccano punte auliche, lasciano fare arresto, per una volta si lasciano scrivere addosso. E allora ci saranno i gabbiani, i cavalli a riva, e qualche lontanissima persona, un brusio di onde, un acciottolio di passi, un cameriere invisibile come Dio, al servizio della nostra umanità. Prendi qualcosa, oltre al caffè che ti è sempre piaciuto senza zucchero, oltre al libro che porti sempre con te, oltre alle navi ferme nel porto del tuo cuore, cosa prendi? È tanto silenzio che fa rumore. Tante cose da dirsi in quest'ultima giornata mentre il sole lento va al tramonto, ma non vorrebbe andarci. Vuole restare lì con noi. I cavalli, i gabbiani. Tutto il mondo si è fermato in attesa di un gesto, di un'entropia che riporti tutto a come era prima. Si dice che tutto torna. Si dice che tutto si ripete. Dolce condanna. Innamorarsi ancora e ancora e ancora di te. Si farà tardi, ma non sarà troppo tardi. Il bar starà per chiudere. Arriva la marea, arriva la notte. Tutto si approda, ma niente si perde per sempre. Sono viventi. Sono qui. I nostri amici cardiopoetici. No, ma grazie a voi, perché veramente è bello. È come dici leggere... grazie di essere vivi. Sì. Ah, ok. Sì. Ci impegniamo un altro po' di anni. A chi vi ispirate? Come movimento, come singoli? Allora, io personalmente, Mariano, mi ispiro, per quanto riguarda la prosa, come miei maestri personali, ho sempre inseguito il modello di Hemingway. Beh, nient'altro. Marco? Neruda. Neruda. E Fabio? Ma io moltissimi in realtà, quindi non saprei dirne uno. Vai da Pino Insegno a, sì. A Prevere, insomma, un po' tutti. Edgar Allan Poe, io quello nel cuore, Edgar Allan Poe. Signori, dobbiamo chiudere perché c'è il GR, grazie al volo. Ultima cosa, tour dicembre, sì. Attraverseremo l'Italia, all'Italia arriveremo fino a Brescia e poi ritorneremo giù a Roma. Ma tanto ci risentiamo anche per telefono perché devo darvi lo spazio che meritate. Ti ringraziamo. Grazie ai nostri grazie poetici straordinari. Grazie, grazie Mariano, grazie, grazie Marco, a voi. Grazie Fabio. A tra poco con Stefano Farina e il momento finale di Voice Anatomy. A dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voice Anatomy. Momento attesissimo quello di parlare con il grandissimo ex arbitro internazionale Stefano Farina, benvenuto Stefano e buongiorno, grazie di averci. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. No, è bellissimo, poco prima di tutti i convocati con i grandi del calcio e dello sport. Una cosa bella, un bel messaggio per i nostri amici poeti. Che bello sapere che oltre a Buzzi e a Schettino ci sono ancora in Italia persone come questi bravissimi poeti, dice Walter. Questo è bellissimo. Stefano Farina, non so dove cominciare con te, perché tu sei, sì, arbitro, sei disegnatore, quant'altro, ma sei un uomo di comunicazione, sei un uomo straordinario di comunicazione, io questo lo so, tu sei un formatore a tutto tondo. Sì, diciamo che ho sfruttato quello che era l'esperienza lavorativa, dai 18 ai 30 anni ho lavorato in azienda, all'ufficio acquisti, poi è passato l'autobus della Serie A, ci sono salito sopra, per cui ho fatto l'assicuratore e alla fine... ho creato un corso, essere manager, gioca la tua partita, che in pratica insegno ai manager come arrivare alla giusta decisione. Esatto, la metafora dello sport, certo, è la metafora, più giusta. Più tu giusta. Sei stato arbitro, come dicevo, collezionando quasi 400 presenze tra A e B. Sì, non 236 sbaglio, in Serie A e 117 in Serie B. Ecco. Quando hai capito di voler essere un arbitro? Insomma, tutti i bambini sognano di essere calciatori. Questa è una domanda classica che ti farebbe chiunque. Sì, tu invece dici, oh, faccio guarda, l'arbitro. Guarda, ripensando al mio passato... in seconda media mi piaceva disegnare cartellini gialli e rossi, questo è incredibile. Già questo ti fa capire qualcosa. Ti fa capire qualche e non cosa. Pensavi alla squadra, pensavi esatto, sei del diciamo, Genoa, sei genoese. Poi ho cominciato a giocare a calcio, sono arrivato a 17 anni nell'Ovada calcio, giocavo libero, ero bravino, però mi mancavano due cose per essere un calciatore completo. Non ero cattivo ed ero lento. Cosa che invece come arbitro eri cattivo è veloce. Cattivo come i genitori quindi, veri, certo. Non ero cattivo e gratuito. Poi a 18 anni ho fatto il corso e ho cominciato questa attività che poi è stata la mia fortuna, perché se sono quello che sono è grazie all'arbitraggio. Tu hai esordito a quanti anni? In Serie A? Sì. 31. 31 esordito, anni. Sì, sì, 22 gennaio 95 in un Foggia Reggiana. Come è finito? Foggia. 2-1 per il Foggia, ma una partita semplice. Veramente semplice, di poco interesse, però Serie A, e quindi tutti si ricordano quella, è la prima, non te la dimentichi. Non te la scordi mai. Come, no, in tutte le cose. Come in tutte le come cose. In tutte le cose. Tutte ma soprattutto se è andata bene. Certo, benissimo. Certe cose in certi campi può non andare bene è la vero. Prima volta, ma no. Lì, esatto, lì è andata bene anche quella. Quelle body anatomy è un'altra cosa, esatto. Questa è voice anatomy. A voice proposito anatomy. Di questo vogliamo proprio analizzare il tuo lavoro rispetto alla voce, lo so che tu sei un esperto, alla comunicazione che adottavi in campo. Come ti relazionavi con i calciatori? Beh, intanto diventa fondamentale per un arbitro avere rispetto, e tu il rispetto ce l'hai quando sei credibile. La credibilità riesci a ottenerla quando sbagli poco, e per sbagliare poco devi essere competente. Difficile. Difficile, troppe difficile. Cose insieme. Troppe cose Stefano. Insieme, ecco perché ce ne sono pochi. 22 arbitri in Serie A su 35.000. Il problema è la selezione. Oggi il mio lavoro da responsabile della Serie B è proprio questo: andare a trovare le persone che hanno le caratteristiche per poter sopportare il peso della Serie A. Non è facile. No, non è facile. Non è più difficile in Serie B, in campi di provincia, sopportare il peso dei tifosi che ce l'hai più addosso, più violenti verbalmente magari, perché in Serie A non scherzano, ma sanno già che magari ci sono delle regole maggiori. È tutto proporzionato, perché io credo che in generale, mi viene una metafora, tu conosci bene, la metafora del teatro. Sì, ci può essere un attore straordinario nel teatrino con 50 posti, sì. Però per arrivare a Broadway probabilmente ci vuole dell'altro, credo. 1-0 per te. Ok, e quindi su questo vengo agli arbitri, che è vero che in Serie B, nella Camp Pro, sono campi difficili, ma arbitri, giocatori di Serie B, giocatori di Serie C. Quindi certo. Quando sei in Serie A la difficoltà è proprio di metterti a relazionarti con grandi campioni, e devi essere bravo ad essere autorevole, per cui trasmettere carisma e capacità, e non essere costretto ad essere autoritario, perché è l'inizio della fine dell'arbitro. Certo, se tu ammonisci o espelli dopo 5 minuti di partita hai perso. Certo, a meno che non è un intervento di gioco. Beh, certo. Violento, altre cose che ti obbliga, perché vedi, io vorrei, Pino, oggi anche per i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori, svelare una cosa molto importante, una leggenda metropolitana: l'arbitro non deve essere protagonista. Questa è una grossissima balla. Cioè, l'arbitro deve essere protagonista quando è necessario che sia protagonista. Tradotto, certo. Se dopo un minuto c'è un uomo lanciato a rete e devo fare il cartellino rosso, devo diventare protagonista. Quindi non è vero che l'arbitro, quello che si vede meno, è il più bravo. No, quello che arbitra giustamente è il più bravo. Certo, come il calciatore, non è che lo devi vedere sempre, come Oriali non lo vedevi sempre, ma c'era. Eppure c'era, te ne accorgi, come il basso in un'orchestra, non se sente, ma se lo levi. È un disastro. È un disastro. Chiaro. Come è cambiato? Ne parlavamo proprio all'inizio. Come è cambiato proprio il rapporto adesso, gli arbitri di una volta, la formazione dell'arbitro di adesso? Insomma, adesso la discrezione arbitrale è sempre una cosa che si è parlato tantissimo. Sì. Beh, no? Sai, la discrezionalità vuol dire saper fare cosa fare e quando farlo. Infatti il nostro problema è insegnare ai nostri arbitri, ai nostri assistenti, chi fa cosa. Immagina oggi che devono collaborare 6 persone in Serie, sì, A. In Serie B noi siamo in 4. Però c'è sempre il concetto del, in questa posizione succede un episodio, chi fa cosa? Allora lavoriamo su questo, lavoriamo proprio sul gruppo, distribuire responsabilità e far capire chi in quel momento vede meglio il comportamento che deve avere e che può dare. Difficile anche questo. Sì, devi essere il leader a turno. C'è Capuano, che normalmente mi ci collego alla fine, ma deve preparare la trasmissione, non ci credo. Sì. Capuano, sei in diretta da Milano? Io sono in diretta, ma sei sicuro? Ha appena, sì, pareggiato il Genoa. No, vabbè, dai, no. Ma non è possibile, mai una gioia. Il conduttore della trasmissione sportiva di Radio 24. Dobbiamo creare un format. Vabbè. Ma un format è mai una gioia, punto it. Però hai il vantaggio che non hai visto il gol, che sei qua, dai. Ma ho capito. Guarda perché... sempre il lato positivo. No, io guardo che quando stacca, perdevamo 1-0, stacca la trasmissione, uno pari ala, cioè uno pari ala, cioè, nel senso. Hai una domanda, una curiosità ma su sì, Stefano? Sentivo, prima... sentivo e seguivo con grande interesse questo discorso della separazione delle competenze e delle responsabilità. Siccome siamo alla vigilia della rivoluzione della VAR, cioè dell'assistenza video, io so che tanti arbitri la stanno vivendo un po' come un momento di diminuzione della propria autorità e delle proprie competenze, cosa che forse è sbagliata. Ma diciamo che fondamentalmente in questo momento ancora non è ben chiaro a tutti cosa succederà, per un semplice motivo, che siamo in una fase reale e concreta di sperimentazione, cioè si sta andando a valutare quanto tempo ci vuole rispetto alle immagini per poter aiutare l'arbitro. Quindi in questo momento sicuramente nessuno sa esattamente cosa succederà. Poi è evidente che non toglierà nessun tipo di autorità all'arbitro, ma sarà, se verrà applicata, semplicemente una possibilità di valutare concretamente di fronte a un'immagine delle situazioni. Però, ripeto, valutate, e questo lo dico a voi, a cui piacerebbe tantissimo vederla applicata domani mattina. Assolutamente. Perché se posso dire la mia, sono rimasto questa settimana. Dopo Italia-Germania, quando chi è il capo della sperimentazione della FIFA, Busacca, ha raccontato che in 6 secondi era stato deciso che il gol della Germania era effettivamente irregolare. Io sono rimasto un po' così. Secondo me in 6 secondi non si era chiarito un bel niente. E secondo me è la dimostrazione plastica che comunque continueremo a discutere, con o senza assistenza video. Il problema sarà che ci saranno le contestazioni agli arbitri dicendo: ma neanche di fronte al video è riuscito a vedere bene. Esatto. Questo succederà. Succederà, non solo. E poi quando ci sarà l'episodio magari particolare, ci sarà anche lì una decisione da prendere. Però ripeto, adesso è veramente un pur parler. Io dico anche inutile, perché non sappiamo concretamente cosa poi veramente decideranno di andare a valutare e veramente quando e se sarà applicato. Quindi speriamo che ci sia la soluzione migliore, diciamo così. Diventerete 10 all'improvviso, ma sarà proprio una riunione di famiglia. Dipende anche quando. Capuano, perché non te ne vai a preparare la trasmissione e ci sentiamo 2 minuti prima che finisce questa? Vado. Chissà che magari, manca un quarto d'ora alla fine delle partite, no, però. Di più, siamo solo all'inizio del secondo tempo. Tra l'altro la partita dell'Olimpico è indietro, siamo all'ottavo e quindi c'è tutto il tempo. Chi ha pareggiato? Pavoletti? Ha pareggiato Campos. Campos, tu sai va che bene. Aveva segnato Felipe Anderson. Ha pareggiato Campos. Se mi dai 5 secondi, la Roma vince 1-0, rigore di Perotti nel primo tempo, 0-0 Crotone-Torino, 0-2 Empoli-Fiorentina-Bernardeschi-Ilicic e 1-1 Bologna-Palermo, Nestorowski destro. Va bene, tutte tranquille. A dopo. Ciao Capuano, grazie. Bene, allora noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito con Stefano Farina, con il quale rimarremo fino alla fine. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Voice Anatomy. Sempre qui, sempre con Stefano Farina, grande disegnatore, grande arbitro internazionale, parliamo di comunicazione verbale, non verbale, a 360 gradi, con un uomo veramente preparato, veramente. Io non so che partite avete in mente, ma ce n'è una. Per esempio, tu nel 2006 hai avuto l'onore e l'onere di dirigere la finale di Supercoppa Europea tra Barcellona e Siviglia. Sì, un'esperienza meravigliosa. Ecco, cosa cambia l'atteggiamento di un arbitro quando in campo ci sono campioni affermati? È diverso da quando c'hai magari una partita più semplice, magari con giocatori non affermati? Intanto cambia assolutamente l'approccio tra le partite italiane e quelle internazionali. Esatto. Perché in Italia il costume, purtroppo, ormai risaputo, i giocatori, gli stessi che in Italia hanno dei comportamenti di un certo tipo, all'estero non lo fanno. E questo è proprio dato dalla comunicazione. Dal fatto che oggi di più, perché oggi l'inglese ormai lo sanno in tanti, tanti hanno studiato, però immaginate 30 anni fa, 40 anni fa, quando il giocatore italiano andava all'estero, non riusciva neanche a comunicare con l'arbitro, per cui non c'era modo di protestare. No, esatto. No, non c'era modo. Però usavi le parolacce che adesso magari anche l'arbitro... perché immagina la scena, Mario deve farlo, City Slanders Fallen! E quindi mi dispiace, ciao, grazie. Però il baffa scattava, esatto. Dato quello non lo sapeva. Lo sapeva. Quindi oggi invece la cosa importante è che gli arbitri italiani intanto sono tutti preparati, sono tutti l'inglese, vanno all'estero e quello che cambia fondamentalmente è il fatto che pensano di più a giocare. E quindi il fatto che all'estero pensano di più a giocare ti aiuta anche nel fatto che diventa più facile comunicare quando c'è qualcosa di sbagliato, tipo un fallo, e soprattutto quello che conta è la comunicazione, che ormai per tutti è uguale, tipo ne parlavamo prima, il dire ora basta con le braccia allargate, lo capiscono in tutto il mondo. Per la comunicazione non verbale. Bisogna solo stare attenti, ad esempio, alle condivisioni del linguaggio, ma soprattutto alle regole culturali. Ecco, quello perché è importante. Questo è importante, a volte ti può capitare, a me è capitato, ero un giovane arbitro da quarto ufficiale, era stato espulso un giocatore di una certa nazionalità e a fine gara è venuto nello spogliatoio accompagnato dal dirigente quasi a piangere con l'arbitro, certo, che era un internazionale, per dire ma guardi che io non l'ho fatto apposta, perché quel gesto che l'arbitro aveva interpretato come una grossa offesa nella sua lingua voleva dire scusa. Cioè, e quindi, lui si era... lui si era, dire, se si era toccato l'orecchio, cioè, lui ha fatto si era il toccato gesto. L'orecchio, quindi il gesto era proprio tipico, dove in Italia noi interpretiamo una certa, certo, cosa, e quindi l'arbitro ha detto: mi sta offendendo, certo, lo caccio mi fuori. Mi sta dicendo che ho una tendenza sessuale, esatto, diversa da quella mia. E quindi l'aveva espulso. E invece voleva dire, e invece scusa. Voleva dire scusa nella sua lingua. E pensi? Quindi è stato incredibile. Lì ti fa riflettere, fa capire tante cose, ti fa capire che anche l'arbitro deve adeguarsi quando va in certi paesi a quella che è la cultura. Ad esempio, a me è capitato tante volte di andare in posti dove essere costretto, tra virgolette, a mangiare cose che noi non siamo abituati a mangiare, e per educazione far finta di mangiare, nascondere sotto l'insalata, insomma, far delle cose però è così. Per assecondare la cultura, di quel paese. Per cui quando stai dirigendo una partita internazionale è fondamentale. Tu sei anche un grande esperto di comunicazione non verbale, a parte la programmazione neurolinguistica, fai questo anche per grandi aziende. Sì, diciamo che soprattutto leadership decisionali. E ti dico, sai, una cosa importante che ci tengo a dirla è che quando un arbitro va all'estero, la cosa più bella è quando sei a centrocampo, parte ad esempio la musichetta della Champions, renderti conto che tu rappresenti l'Italia. Ecco. Guarda, io l'emozione più grossa e più bella è che quando ad esempio vedo gli atleti alle Olimpiadi, mi commuovo e sembro stupido sul divano da solo con mio figlio abbracciato e piango, perché penso a quando arbitravo, quando ero lì in mezzo, io mi sentivo di dire: ma porca miseria, oggi sono qua, rappresento l'Italia, esatto, Novi Ligure, la sezione, cioè una cosa stupenda. E infatti non capisco, a volte, qua apriamo un discorso diverso, gli atleti che in tutti gli sport o rifiutano la nazionale o no, c'è una roba, non si può sopportare, non si può sopportare, quello perché è una cosa meravigliosa. Guarda, io l'inno nazionale lo metterei a scuola all'inizio delle elezioni, perché è un sinonimo di identità, certo, nazionale, certo, non si parla di politica in questo caso, no, è un'identità, perché siamo contenti quando l'arbitro ai mondiali arbitrerà la finale, sì, quando, certo, è italiano siamo contenti, ma siamo scontenti che vuol dire, certo, che non c'è l'Italia in finale, certo, però siamo orgogliosi quando un Collina, uno Stefano Farina ci rappresenta, Rizzoli, certo, ci rappresentano in modo degno. E poi ci accorgiamo quando veniamo ai partiti all'estero che non è sempre meglio quelli di, no, è sempre meglio quelli fuori, no, non è poi così. C'è un'altra cosa che è molto bella, Pino, che è quella che normalmente gli arbitri li insultano, no? Però poi magari quando si va al mare si dice: ah, ma io abito dove c'è Pino Insegno, l'arbitro lo conosco, è mio amico, Stefano Farina, veniva, certo, a scuola con me, che non è vero, no. Però, capito, lo dico perché allora vedi come cambiano le cose sul fatto di, da una parte c'è l'insulto contro, ma poi l'istituzione, sei solo arbitro, contro tutti, solo contro tutti, solo contro 22 più le riserve, solo contro dai 30 ai 50.000 ai 70.000. Come ti interfacci quando c'è Ibrahimovic, quando c'è Totti, Baggio, quando c'è stata sta gente qui? Ma guarda, io credo che l'importante, e adesso dico una cosa che per qualche ascoltatore potrà sembrare strana, ma l'importante è metterti in condizione di pensare che tu sei più di loro. È l'unico, certo, modo. Cioè, perché la maestra o il professore pensa che sa più dell'alunno. Certo. Allora, quando tu fai l'arbitro... Sei il re delle metafore, sei straordinario. Quando tu ti ringrazio, quando tu dirigi, e quindi sei tu che in quel momento, tra virgolette, comandi, ma non vuol dire che sei autoritario, vuol dire che devi semplicemente applicare una regola in un mondo dove tutti vorrebbero non essere, che non fosse applicata. Se tu ci pensi, l'arbitro, qualche difficoltà, ci sono due squadre dove l'obiettivo è vincere a tutti i costi. L'arbitro deve gestire tutti i costi, certo, che vuol dire anche la simulazione. Esatto, tutto. E quindi in un attimo in un devi attimo, decidere. L'arbitro, io dico sempre, un battito di ciglia. Devi decidere. Devi decidere. Allora questo ti porta a che cosa? Metterti in campo con grande determinazione. Allora a quel punto ti devi dire: bene, qua ci sono io, devo mettermi in condizione di sapere che loro mi devono ascoltare. E poi non smetti mai di correre. No, sono degli schemi, no, quando correte, no, in campo, certo, questo se lo chiede, fondamentalmente gli schemi sono, siamo quelli, profani. Sì, lo schema è questo: tu devi sempre accorciare le distanze per trovare l'angolatura giusta. Questo senza intralciare l'azione, certo, che è la cosa più difficile. E capita raramente che una palla sbatte addosso all'arbitro. Io una, dai, volta in un Parma Juventus, no, Dino Baggio mi ha tirato una, no, fucilata nella schiena, mi ha preso il rene destro e mi ha battuto a terra, cioè col succede, pubblico tutti a ridere, certo. Fortunatamente due o tre volte basta nella carriera. Quando però casca l'arbitro quando o il guardialine fa ridere. Fa ridere. Fa ridere. È la, bella, la rivincita è di tutti, del popolo. No, per assoluto, finalmente. Che cavolo, che cacchio, hai giocato col piede mio, tutti esatto, quanti. Tutti, e quindi è bellissimo. Certo, le mogli devono sopportare tante cose. Sì, degli però arbitri, pensa che tutte le volte quando ero in campo io dicevo: bravi, bravi, gridate così. Ma voi che siete qua, vostra moglie in questo momento dov'è? E quindi cioè, la logica è la stessa. No? Esatto. Cioè, se mia moglie è a casa, è anche la moglie. Se tu riesci a dirla all'orecchio al grande campione in quel momento, è fatta. Ce l'hai sì, per ma tutta io la mi vita. Ricordo una volta una battuta, Pino, che ho fatto a un grande stopper, anche che ha giocato in nazionale. A un certo momento colpisce per due o tre volte un giocatore, lo richiamo, poi l'ammonisco e mi dice: ma hai preso il pallone? E io gli ho risposto: sì, ma guarda che il pallone non ha le stringhe. Certo, non ce l'ha. Non quello ce l'ha. Piede, si chiama, è il piede, si chiama piede. Vedi, tutti hanno preso il pallone, poi adesso ci stanno 21 telecamere. Ti fanno segno col dito il pallone, il pallone, sempre. È vero. No, ma voi dovete veramente decidere in un attimo, è pazzesco. Avete mai fatto gli arbitri con i vostri amici? Io l'ho fatto. Per tre volte mi sono portato addosso l'odio generalizzato di tutti i presenti. È complicatissimo. No, è difficile. No, ma veramente è una materia complicata. E tu fai parte proprio dei formatori, per cui, sì, amico sì, mio. Sì, senti, difficile. Poi nel 2010, no, nel 2008 succede qualcosa che non succede molto spesso. Tu hai superato il limite d'età di 45 sì. anni, però ti hanno dato un anno in più. L'AIA ti ha dato un anno sì, in più. Sì, io ho messo a 47 addirittura. A 47? Sì, perché una deroga l'ho presa per essere di settembre. Quindi beh, funziona che l'età la conti a giugno. Quindi. Poi l'anno successivo era un momento un po' particolare, si arrivava dal dopo Calciopoli, che per noi è stata una ferita a livello di associazione importante. Devo dire che grazie al presidente Marcello Nicchi, in questi 8 anni che è stato fatto un lavoro eccezionale, sì, ha rimesso in piedi completamente con grande dignità questa associazione. È chiaro che c'erano tanti giovani, io ho fatto un po' da chioccia, anche lì è stato un anno stupendo. Il responsabile era Pierluigi Collina della Serie A. E quindi dov'è adesso Collina? Collina ora è il capo degli arbitri della UEFA. In pratica, per farci cioè, capire, designa la Champions League, per farci certo, capire. No? E allora lì ho capito è anche che è italiano, capito? L'orgoglio italiano. Oh, capito? E vedi, quindi, gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Certo, e ti dico, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri da Casarin a Dagnolin, poi Collina, insomma, da lì poi ti formi anche come dirigente, perché guarda che da arbitrare, essere dirigente, essere formatore è veramente tutta un'altra cosa. Un altro film. Perché come un bravo allenatore non è detto che sia stato un grande calciatore e viceversa, certo, insomma. Sai cos'è la caratteristica più importante? Riuscire a passare dall'io all'oro. Perché quello che dovrebbe fare anche un presentatore. Esatto. Non esatto, c'è più io, non c'è qui, più io, ma ci siete voi. Ci siete voi. E ti devo dire, questo viene in che modo? Perché quando arbitri, hai fatto i 90 minuti, come è andata? Bene, ok, sono contento e pensi alla prossima. Da designatore io ho 11 partite con 44 persone in giro e dico speriamo che vadano bene tutte, per cui la responsabilità è diversa e soprattutto c'è 22 famiglie da gestire. Sì, ma ti dico soprattutto la cosa importante, io ho preso spunto da un film bellissimo, non so se tu l'hai visto. Sicuro dimmi che quello ti dico che l'hai visto sicuro, quello che parla di Nelson Mandela, della squadra del Sudafrica, come no, quello di Clint Eastwood ha vinto, esatto, stupendo. Morgan Freeman, esatto, e io ho preso tante frasi che mi interessavano per formare i miei arbitri. Da quel film gli ho fatto vedere il film e poi abbiamo fatto un'esercitazione parlando del film e di certe frasi. Ce l'hai? Sì, ne ho alcune. Una, pensa, Farina, cioè, è Voice Anatomy, per cui è giusto che sia lui a recitarle. Una ce l'ho molto bella, che è quella che io ho trasferito a loro. Gli ho detto, il giorno che avrò paura di rischiare non sarò più adatto a fare il vostro leader. Bello. E gliel'ho detto perché quando tu hai un arbitro davanti, rischiare vuol dire che per farlo crescere devi fargli fare partite che inizialmente sembrerebbero non alla sua portata. Certo. Ma come fai tu a sapere se puoi recitare a Broadway se non, esatto, ci vai? Non ci vai? E allora il discorso è, io ti faccio crescere dal teatrino di periferia, 100 posti, 200... Sistina, certo, bene, andiamo a Broadway. Vedi che conosce tutti. Ma a questo punto queste frasi tu te le segni e te le recitiamo noi. Abbiamo dette noi al cinema. Certo, certo. L'altra frase? Vabbè, adesso andiamo in pubblicità e poi siamo ancora insieme. Vero? Tanto 2 minuti e torniamo immediatamente con Stefano Farina. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 16:32, 22 secondi in questo momento, proprio per dire siamo in diretta. Stefano Farina, stavo parlando di tutto il mondo dell'arbitrale. La cosa bella è sentire all'improvviso un arbitro che non parla mai. Dice, ma cavolo, la parlano questi arbitri. Sì, soprattutto miseria. È bello che la gente si renda conto. Pensa che una volta eravamo tutti vestiti di nero. È vero. Si parlava dell'uomo nero. E dalla inventiva, dalla capacità di Casarin di capire che forse era meglio se riuscivamo a diventare un po' più simpatici, tra virgolette, ha detto, ma perché noi non li facciamo diventare come i calciatori e li coloriamo? Fu un'ottima idea. Sì, no, perché comunque adesso siete gialli, fluorescenti. Qui chi mi dice, Ferruccio Lazio, Farina fischiò un rigore su Bucchi, ma sul proseguo dell'azione segnò Nakata e lui concesse il gol. Che non so. No, no, è andato in prescrizione, aspetta, è successo. No, no, no, no, aspetta, qua lui vuol dire, mi ricordo benissimo, fu una mia cappella astronomica. Ah, vedi che c'è una missione. Ha ragione, e lui ragione, dice, sì. Non lo ammetterà mai. No, non è vero, non è vero, ha ragione perché io fischiai contemporaneamente il rigore al gol, cioè in pratica che è successo? La palla sta entrando, mentre io vedo un rigore, sto fischiando il rigore, la palla va in gol e ho proseguito, va bene, però gol. Ci sta. Allora, come, rigore su come, gol, allora, si dice. Allora, come regolamento fu un errore, però io in quel momento, sbagliando, ripeto, da regolamento, però volli così dare merito alla giustizia, era gol, certo. E quindi diedi gol, però sinceramente avevi è chiaro che rigore. Da regolamento fu un errore, però in quel momento mi sembrava giusto fare quella cosa lì. Quella è la discrezionalità. E poi sì, sbagliai, però nel mio profondo mi sembrava fosse la cosa giusta. Ma è giusto. Ho assistito a una partita dove davano del cornuto all'arbitro già prima che l'incontro iniziasse. Credo che ne sapessero più dell'arbitro. Questa fa ridere. Ma sì, fa ridere. Dico all'ascoltatore che spesso ci alleniamo di fronte allo specchio per sopportare queste cose. Assolutamente sì. Con delle cassette registrate. Altri complimenti, grande carattere, grande carisma, eccetera, eccetera. Grazie. Mi parlavi di queste regole che tu stai non imponendo, ma stai formando gli arbitri, eccetera. Sì, intanto l'importanza dello studio, del continuo aggiornamento, delle regole, della sua applicazione. Proprio per avere il successo nella gestione di un gruppo, ma no? Quest'anno, ma qualsiasi gruppo sia, poi, ma insomma. Ma certo, poi quest'anno più che mai sono cambiate tante regole. Pensate, con la circolare numero 1 lo sanno in pochi, ma nel regolamento hanno toccato 94 cose quest'anno. 94, non lo sa nessuno, che tu vedo che strabuzzi gli occhi. Sì, poi alcune sono piccole cose, altre sono molto importanti, per cui un arbitro deve assolutamente intanto essere pronto a valutare e a gestire il cambiamento. Tutti noi, e chi fa formazione e chi è nella media del lavoro, sa benissimo che gestire il cambiamento è sempre difficile, perché inizialmente si rifiuta. La domanda è, ma perché devo cambiare se fino ad oggi ho fatto sempre questo? Ha funzionato, certo. Ha funzionato. Immaginate che per 15 anni hanno detto agli arbitri, tutte le volte che uno si presenta da solo, di fronte al portiere, rigore rosso. Da quest'anno, no. Dovete vedere se è dentro o fuori area, dovete vedere se stira la maglia, se spinge, è giallo, è rosso. E allora è chiaro che devi riadattare. Non è più sicuro espulsione all'ultimo uomo. No, perché quest'anno se è in area di rigore, okay, e un giocatore cerca in modo onesto di entrare, ad esempio, in scivolata a prendere il pallone, diventa giallo. Certo. Mentre sei fuori area resta rosso. Allora devi cominciare a cambiare questo tipo di atteggiamento mentale dopo che per 15 anni hai fatto sempre le stesse cose. Ci sono degli automatismi che poi, esatto, devi togliere. Allora assolutamente. Ecco che diventa importante il fatto di essere pronti a percepire, seguire con prontezza il fatto che il ritmo della gara cambia, il fatto che ci sono situazioni particolari, perché a volte, Pino, una decisione cambia l'equilibrio di una partita. Ah, certo. Allora dove noi valutiamo gli arbitri? Nella capacità di sopportare il peso della decisione. Tradotto, se per 30 minuti una gara è tranquilla, io potrei anche bermi un succo di frutta, certo, che la gara va via da sola. Poi capita l'episodio fallo da rosso. lo devo fare, lì devo avere la forza di farlo, che vuol dire la forza di sopportare che cambia l'equilibrio della partita. Certo. È lì che noi misuriamo la capacità di un'area, il carattere dell'area. Se riesco a portare quello e poi dopo tutto ciò che ne consegue. Allora, da organo tecnico, si chiama così il capo degli arbitri, io mi sono dato alcune regole, no? E ho fatto capire ai ragazzi intanto cinque pilastri fondamentali, come si diventa adeguati in un sistema odierno con il gioco del calcio. Onore a lei, ti hanno detto. Grazie, mi fa molto piacere. Onore. Come si diventa competitivi, perché poi tra di loro comunque sono competitivi. Noi quest'anno in Serie B abbiamo 26 arbitri e probabilmente due a fine anno andranno in Serie A, certo. Per cui è una sfida anche tra di loro. Come si diventa un esempio? Un'altra cosa importante, nel gruppo, per gli altri. Come si raggiungono i traguardi? E poi un altro elemento fondamentale è come ci si sente bene con noi stessi. Qual è la logica che è fondamentale? Lasciare a casa i problemi. Bravo, io dico sempre che un arbitro in quei 90 minuti deve fare come te quando sali sul palcoscenico. Certo. The show must go on. Magari ti capita che ti hanno detto 10 minuti prima che tua mamma sta male. Guarda, ti posso dire, stavo per dire questo. Purtroppo è successo che mia madre se n'è andata proprio, cioè è morta la mattina. Io debuttavo al Parioli la sera, credo che poi tu sia stato pure presente perché tu ci sei sempre poi ai miei spettacoli. Cioè, mia madre morì proprio la mattina, io dovevo debuttare e lasciare a casa mia madre. Devo dire che certe cose ti aiuta anche, ti fortifica, sì, e certo. Ti dico una cosa che non sa nessuno, la dico per la prima volta a te qua, perché comunque per rispondere alla tua situazione. Io stavo andando ad arbitrare in Serie A Salernitana Udinese, e non potrò mai dimenticarmelo. E il mattino del sabato stavo andando all'aeroporto, mi chiama mia sorella e mi dice: Stefano, mezz'ora fa mi hanno diagnosticato un tumore. E io, così, tu immagina il mio dolore. Fortunatamente mia sorella dopo 20 anni è ancora qua, è successo quindi 20 anni fa. Però prorompente, io sono arrivato a Salerno, ho staccato la spina, 90 minuti, ho riacceso la spina. E poi dopo la partita piange. Certo. Ecco, questo per dire, lo dico anche ai tifosi, gli arbitri sono uomini. Uomini come l'attore di teatro, esatto. Come l'attore famoso. Uomini. Sono uomini. Anche Brad Pitt la mattina all'alito pesante. Bravo. Se non se lavi i denti è un problema. E poi infine una cosa molto importante sono le 10 regole che trasmetto agli arbitri per ottenere successo. Allora, sono 10 piccole cose che... Vuoi che le leggo io e tu le spieghi? Sì, vorrei che tu pensassi mentre leggi anche al tuo lavoro, no? Magari dove leggi la squadra accanto ci metti il teatro, non esatto, lo so. Tu le spieghi. Allora, sì. Regola numero uno. La squadra o il gruppo di lavoro o qualsiasi cosa viene prima di voi. Solidarietà, certo, tecnica. Che vuol dire che ognuno quando arbitra deve pensare che la domenica dopo in quel campo andrà un altro di noi. Per cui io devo creare sempre... la possibilità di avere all'arbitro successivo una situazione agevole. Tradotto, se arbitro bene arrivo in un campo e in un posto dove sono predisposti meglio. Non ci avevo pensato a questa cosa. Predisposti meglio. Esatto, perché per te è una famiglia, sono quei 20 che vanno a filtrare. Cioè, perché... Se arbitra male a casa di quel giorno, poi nato, ammazzano quello. Cioè, se oggi no, tu vai a vedere la tua bene amata Lazio e l'arbitro sbaglia e fa casotto, quello che viene quei giorni dopo paga pegno pure per lui. Capito? Certo. Quindi vuol dire io devo arbitrare benissimo per me, ma soprattutto anche per chi verrà dopo di me. Altri complimenti, ottimo arbitro e uomo sincero, questa è la cosa più bella, quella che grazie. Parlavamo prima. Due, la fame fra virgolette di raggiungere l'obiettivo va coltivata ogni giorno. Questo è determinante, vale per tutto, vale nella vita, vale anche nell'amore, devi innaffiare il giardino, no? Sempre. E quindi io infatti mi arrabbio quando qualche volta può capitare, mi accorgo che magari trovo uno con poca fame. Poca fame vuol dire nell'arbitraggio in tutto, ma qua vuol dire magari essere leggermente demotivato, perché sai, magari tu ti aspetti di andare in un certo posto e vai in un altro. Allora ecco, la fame vuol dire avere tutte le volte grinta, determinazione, devo andare là dal sempre. Primo al 90esimo a far bene, anche perché ti dico una cosa, per noi il concetto di qualità, ma anche per te, guarda, io sto trovando oggi una similitudine terrificante fra l'attore di teatro e l'arbitro, ma anche il chirurgo. Ti dico una cosa, per noi il concetto di qualità è far bene la prima volta e ogni volta, che vuol dire il primo fischio dal primo al 90esimo e ogni partita. Danza come fosse l'ultima danza, diceva Lindsay Kemp, oppure vivi come se fosse la prima volta. Perfetto. Ma sempre, sempre io scelgo sempre le persone per la fame che c'hanno, certo, non per la bravura, per la voglia. Se tu tiri alla perfezione, sicuramente arriverai all'eccellenza. 3. Fidatevi del vostro organo tecnico e seguitelo sempre. Questo è determinante. Ci sono dei momenti in cui anche io ero arrabbiato, tra virgolette, con chi mi gestiva. Però mi sono sempre fidato, perché non hai alternative. È lui che decide, è lui che ti governa, devi convincerlo come il giocatore va in panchina. Esatto. Tu non devi contestarlo, devi fare di tutto per dire, amico, ti stai sbagliando. Esatto. Bravo, bellissimo. 4. L'allenamento mentale è la prima pietra dei successi personali per diventare un grande arbitro, è fondamentale, un grande uomo, fondamentale, un grande chirurgo, un grande politico, un grande tutto. Un grande padre, un grande... Sì, bravo. Perché noi, ad esempio, dobbiamo velocizzare ed imparare a decidere velocemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Serie C, Lega Pro, giocano ai 10 all'ora. In Serie B è 50 all'ora, in Serie A è 100.000. Allora, chi arriva dalla Lega Pro, ad esempio, in Serie B, abbiamo parlato ancora una settimana fa con dei primi anni appena arrivati, mi hanno detto, Stefano, noi dobbiamo cercare, e io mi rendo conto, di cambiare modo di ragionare, di essere più veloci, perché il gioco è più veloce, e se io non ci riesco è un problema. Questo è importante. Sinceramente, hai mai arbitrato la tua squadra del cuore? Come è andata? La prima volta mi hanno assediato. Perché io da ragazzino, no, non contro, ho fatto le cose giuste. Allora, io da bambino, tutti sanno che da bambino sono nato a Genova, ero genoano. Certo. E non è che uno lo prendono da Marte. Oggi stiamo io e te litigati. Lo prendono, ah, è vero, no, ma vabbè. Pure mio padre del Genova. No, ma poi diventi, è come diventare un carabiniero, diventare un prete, sì, diventare arbitro. È la vocazione. Arresti anche tuo padre. Arresti anche tuo padre. Allora, qual è il discorso? Che io sono andato ad arbitrare la mia gara prima in Serie B, Genoa-Pescara, oh, Madonna. 0-1, e non diedi, secondo gli urla del Genoa, un rigore a Francioso, che era il centravanti del Genoa. Genoa. Ma perché? Per me non era così. Quindi ebbi una contestazione, eccetera, ma io facevo l'arbitro, per me erano due, certo, maglie, dovevo fischiare. Ripeto, quando poi fai l'arbitro, fai il corso da arbitro, un'altra cosa importante è dimentichi che squadra tenevi, certo, e hai solo un obiettivo, il senso della giustizia, se no non faresti l'arbitro. Signori, con uomini così, queste sono cose che fanno bene non solo al calcio, normalmente si dice queste cose fanno bene al calcio, queste cose fanno bene alla vita, sì, alla, sì, quotidianità, credo, sì. Show must go on, con la differenza che l'arbitro ha tutti contro, dicono, va bene. Qualcuno mi dice per il doppio Viggo Mortensen perché non lo invito alla serata del Gran Galà del Gran Premio. Magari stesse qui, caro Mario. L'ho incontrato prima di doppiare l'ultimo film, che è Capitan Fantastic, che ho finito proprio ieri, fra un raffreddore e un colpo di tosse, di doppiare questo straordinario film che uscirà a dicembre. No, ma non è possibile. Sono stato con lui, siamo fumati pure mezza sigaretta insieme, ma non sta qui a Roma. Va bene, stiamo ancora con te, ovviamente stiamo andando in pubblicità per fare l'ultimo blocco insieme a Stefano, vero? E ci colleghiamo poi con tutti i convocati, con mai una gioia. Sono finite le partite, Alessandro? Non lo sai, eh? Va bene, a tra pochissimo, per chiudere questa bellissima puntata con il grande ex arbitro. Ma ex arbitro non mi piace, grande disegnatore, grande... No, uomo. Basta dire arbitro. Arbitro. Uno arbitro tutta la vita, ce l'ha sulla pelle. Esatto, arbitro, aggiungete voi quello che volete. A tra poco, Voice Anatomy. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci per l'ultimo momento, non l'ultimo, che ce ne saranno altri, perché Stefano Farina, oltre ad essere un arbitro, ormai, come dice lui, ce l'hai scritto sulla pelle, ormai rimarrai arbitro anche se sei ex per tutta la vita, sì, sì. Ma sei il grande formatore di questa squadra. Stavamo leggendo questo decalogo di formazione, che vale per tutti, vale per, sì, tutti. Sì, per tutti. Per dire, lo utilizzo anche nelle aziende, con, certo, i manager. Ma questo è il segreto della vita. Io lavoro nello stesso campo e credo che noi, certo, arriverà il momento, ce lo diciamo da anni, ma lavoreremo insieme sicuramente. Quinto punto, fate una vita sana. È determinante, questo non ha spiegazione. Non ha bisogno di spiegazioni. No. Io che l'arbitro, voglio dire l'uomo. L'uomo al centro. Sembrano i capitoli di Kill Bill di Tarantino. dicevo, l'arbitro al centro del mondo, l'uomo al centro del mondo, deve crearsi più positività intorno per far bene. Per cui una vita sana è fondamentale. Sesto punto, in campo pensate poco, solo quando serve, ed arbitrate tanto. Fondamentale, l'istintività per l'arbitro è tutto. L'arbitro vive di cose che vede e automaticamente decide. Per più cui, di un computer, più veloce di un computer. Cui, deve certo, per cui quello che è il nostro è, op, decido, stop. E quindi questo adesso con gli auricolari è agevolato o può crearsi una confusione? Come possono tutte, arrivare due o tre cose come insieme? Tutte, come tutte le situazioni che migliorano tecnologicamente, se io do in mano la Ferrari a uno che non ha la patente si schianta contro un muro. Certo. Quindi gli auricolari sono eccezionali perché ti puoi parlare se utilizzati bene. Certo. Perché immagina se capita una situazione dove quarto uomo, assistente e addizionale parlano insieme. No, ma soprattutto dicono niente, giallo, rosso. e l'arbitro dice adesso qua non fa così, mettetevi d'accordo. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, questa naturalmente è una battuta che non certo, capita mai, no, ma per certo. far capire può succedere per questo. Far capire che può succedere però un rigore e io per me non lo è. E quindi mia, da lì è un quindi, attimo. Noi anche quando lo rivediamo 10 volte ancora certo. dobbiamo decidere se o non, certo. pure quello dell'Italia che Germania, si è capito se era rigore poi sul Belotti. Io non ho visto no. la partita, ah, quindi meglio, so, di tutti. Meglio di tutti. 7, grande velocità di pensiero e di gambe, rapporto cervello-muscolo. Questo è fondamentale, immediato. Per cui se sei allenato, se stai bene, arrivi al 90esimo lucido, se sei poco allenato il cervello... È come lì parlando di un chirurgo, in esatto, un attimo di decine, se succede qualcosa, se rompe la via, che mai io fai? Io penso come... sempre, e la mia stima totale, incredibile, pazzesca, va... a quelli del pronto soccorso. Sì, che io ho sempre pensato, loro. Ma pensa, ti arrivano 20 situazioni diverse. Rosso, giallo, bianco, devi decidere velocemente. Bellissimo. 8, in tutto quello che fate metteteci il cuore e passione, quello che dicevamo prima, la fame, prima. La fame, la cuore, la passione. Rocky la passione. Balboa, dove c'è Rocky, bravo, Balboa, Rocky Balboa, questi giorni che stanno Adriano. A fare Canelo Rocky, esatto, me ne sono visti 16 sì, volte, non ne la posso fare. Però il primo è il primo. Sì, il primo è il primo, ma Creed devo dire che l'ultimo, Du Piantarelli mi sono fatti. Ah, su lui che fa lui che allena il figlio. Lui è bello. No, lui è forte, lì l'Oscar io devo dare anche per grazie. Poi non è neanche rifatto tanto lui. Ma insomma, sì, c'è un botolino che gli esce ormai dappertutto, infatti c'è più un'espressione. 9, dovete essere competitivamente aggressivi e cattivi, ma corretti come i giocatori. Come giocatori, giocatore, no, è la stessa cosa. Cattivi. Per cui l'arbitro deve essere, per cattivo qua si intende... No, carattere. Che deve avere carattere. Dai. No, deve essere autorevole. È il professore a scuola, sempre, bambini. Bisogna farsi rispettare. E quando trovi il grande campione... Noi diamo rispetto, perché io ho sempre detto ai giocatori, io ti rispetto, tu mi devi rispettare. Certo. E non c'è una equazione diversa. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, come chiameresti? A7 oppure Ronaldo? No, o ti chiama A7? Beh, diciamo me. Che quando tu, no, quando tu arrivi in Serie A, dopo un po' c'è un rapporto addirittura con qualche calciatore, lo chiami anche per nome. Certo. Vuol dire, dopo che tu fai 50 volte Paolo Maldini, a Paolo. Puoi anche dire Paolo. Non pico io. Non anche, dai, no, va. No, la seconda parte no. No. Paolo stai più tranquillo. Da buono, bello di papà. Stai buono, ecco. E 10, l'AIA, l'associazione proprio degli arbitri, ha una storia gloriosa. Ecco, questo è importante. L'AIA ha una storia gloriosa, l'associazione è gloriosa, va rispettata, che vuol dire dimostrate sempre, prima di tutto, di essere arbitri dell'Associazione Italiana Arbitri. Che bello. Grandi, ti arrivano complimenti come quello che poi tu speravi e che noi, ero sicuro, da uomo sincero, da uomo onesto intellettualmente. Grazie a tutti gli ascoltatori allora, che stanno facendo. Grazie a te. Capuano! Eccomi! È bellissimo, c'è una gioia, ma il problema c'è quando... No, ne hai due, te ne dico io. Mamma mia, ho capito. Mi dispiace perché ho visto la faccia di Mauro Meconi, l'attore, sai, di Romanzo Criminale, sì, sì, di quanto è il mio autore, e l'altra autrice, che sono dell'altra squadra, che hanno una faccia, per cui la allora, gioia possiamo mia... Possiamo anche non dirlo. No, vabbè, ho capito, ha segnato l'Atalanta adesso. Ha segnato l'Atalanta su rigore al 90esimo. Al 90esimo? Sì, che si è, ve lo dico io così, c'era vi evito l'imbarazzo, qui, il eh? Rigore c'era, sì. Rigore c'era, va bene. Aggancio di Paredes su Gomez, ma del resto era tutto il secondo tempo che l'Atalanta aveva messo spingeva. Dietro la Roma e ma stava la Lazio ci ha vinto 3-0 lì, che vuol dire Lazio questo? 3-1, Lazio 3-1, eravamo rimasti sull'1-1. Sì, lo so, perché c'eri tu. Sì, esatto. Poi siamo andati via, calcio di rigore di Biglia, anche questo netto, dodicesimo del secondo tempo, e poi il 3-1 di Wallace, si sta ancora giocando. Wallace. Siamo in pieno tempo di recupero. Che faceva il pistolero, mi diceva che fai Wallace, veramente. Ehi, sono Wallace. Sembra un film di quelli che doppio io. E poi altri risultati, amico e mio? E poi c'è il 2-0 esterno del Torino sul Crotone, doppietta di Belotti, vabbè. 35esimo e 44esimo del secondo tempo. Sul primo c'è qualche dubbio fondato di fuorigioco, visto che oggi siamo in tema arbitrale. Eh sì. C'è il 4-0 della Fiorentina in casa dell'Empoli, due doppiette, Bernardeschi ed Ilicic, il primo dei due di Ilicic su calcio di rigore, poi c'è il 3-1 del Bologna sul Palermo che era andato in vantaggio con Nestorovski e poi è stato rimontato da Destro, Zemaili e Viviani. Dimmi Stefano, stai volevo chiederti un regalo. A me o a Capuano? A Capuano. Te che parlavamo fuori prima di una cosa che faceva Gasman. Mi puoi leggere un nome e un numero di telefono? Guarda, è bellissimo. Te lo inventi. Non lo so. Te lo inventi. Mittente. 393-412-3340. Inviato il 2016. 11:20. Alle 16:44. Questa è la cosa bellissima. Parlavamo di Gasman. Sì, va bene. Quindi. Uguale, stessa cosa. Vabbè, sei Capuano, sei contento che oggi c'ho il designatore? Sono contentissimo. È bravo, grande Maffarina. Grande è bravo e da grande diventerà designatore della Serie A. La butto lì. Beh, questo è il percorso che infatti volevo chiedergli. Che farai da lo grande? Lo so che lui negherà a morte. Io dico la risposta classica. Che quella il mister deciderà, che dico loro dicono il mister, dico il presidente dell'AIA deciderà. Ma è la verità, io lavoro la giornata per fare bene, esatto, spero di fare la squadra, che palle, capito? E quindi dico cerco di fare meglio che posso, ma, sì, ma posso chiedergli a parte una cosa? Gli scherzi vedremo quel che succederà. Posso chiedergli? E tanto dopo ci siete, io voglio chiedergli davvero quanto un designatore soffre il sabato e la domenica davanti alla TV, va negli stadi, però insomma poi, perché poi è vero, un allenatore in panchina li vediamo, gesticolano, soffrono per gli errori dei ragazzi in campo. Infatti ne parlavamo prima. È un designatore che fa. Guardi, la posso invitare a casa mia? Ok, ti posso invitare a casa mia quando sono le partite, che sembra la Basilica di San Pietro, così ti ho risposto. Ecco. Nel senso che tutti noi speriamo di dare un servizio sempre migliore al calcio, perché poi l'arbitro dà un servizio al calcio, alla federazione, quindi quando i ragazzi vanno bene è la nostra gioia, e quando un ragazzo sbaglia un rigore, un assistente sbaglia un fuorigioco, i primi siamo noi a dire fammi vedere il replay, certo. E quando poi vediamo che la riga è tirata ed era buono dico meno male, quando nel rigore meno male, perché noi soffriamo con loro, ci auguriamo che sempre facciano bene, e quando purtroppo sbagliano, sbagliamo anche noi con loro e ci dispiace. Vorremmo solo una cosa che è difficile, un po' più di comprensione. Ecco, su questa preghiera noi ci salutiamo. Aiutate la famiglia Farina a diventare quello che vuole diventare. Ragazzi, grazie. Capuano, ti lascio la linea. Intanto è finita la Roma, Va bene, mi interessa poco il calcio, tanto fra due domeniche sarà una cosa brutta. Va bene, carissimi, grazie a Stefano, grazie Farina. Grazie a voi, buon calcio a tutti, grazie, buona domenica. Grazie Capuano e buona trasmissione a tutti i convocati, e noi ci vediamo, sentiamo domenica prossima, grandissima puntata, Enzo Avitabile, non sapete la gente che ci sarà anche domenica prossima. Vi abbraccio e vi bacio, vi voglio bene, grazie per volercene così tanto. Ciao.